Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Parenzo, ho tra le mani un libretto, sì, un piccolo libricino che è stato diffuso quest'estate da un settimanale che si chiama Visto, le migliori barzellette gay. Poi sì, è successo un casino perché no, si... sugli ebrei hanno fatto. Sì, anche sugli ebrei, ah, sui dottori, sui carabinieri, giustamente, Totti, Berlusconi, i migliori sui preti e sulle suore. Poi hanno distribuito un librettino sui gay e le associazioni si sono incazzate, pure il direttore di Visto si è arrabbiato perché non sapeva che l'editore, insomma, è successo un casino. E guarda che tipo di barzellette sono, te ne leggo una, sono tutte fantastiche, molte anche quelle, volgari. Leggi quelle sui gay, non quelle sugli ebrei. Sui gay, sui gay, sui gay, ma anche sugli ebrei, ma qual è il problema? No, l'ho visto. Allora, non l'hai preso, non l'hai preso. Io ce l'ho qui, il libricino, no? Un pullman di gay. Beh, potrei dire che me lo sono fatto regalare visto che sono ebreo e non l'ho comprato. Se ti piace la battuta, potrei fartela così. No, non mi piace, così, non diciamo, mi piace, non mi piace. Un pullman di gay si affianca ad un pullman di nani. Ma sono tutte anche note queste barzellette, eh? Alcune, non, alcune le conoscevo già. Un pullman di gay si affianca a un pullman di nani. I gay espongono uno striscione con la scritta "Abbasso la figa". I nani abbassano i finestrini e mettono fuori un altro striscione. Magari. Vecchia. Vecchia? Vecchia. Sì, ma la domanda è questa: ma perché uno si deve arrabbiare o si deve vergognare per aver distribuito un libretto di questo tipo? Poi possono fare anche quella sui negri, quella sui cinesi. Ma qual è il problema? Qual è il problema? Qual è l'omofobia? Che cosa? Non si possono fare le barzellette sui gay, ragazzi? Ma qui veniamo, veramente diventiamo di un politicamente corretto, di un no, ma sono spaventoso, alcune banali, questa anche divertente, di vent'anni fa. Era, ma perché guarda, tu ti arrabbi? Perché dovrebbero essere proibite le barzellette sui gay, ma, sui, ma no, sugli ebrei? Proibite no, ma che un gruppo editoriale, ma smettila, decida addirittura di fare una serie, ma va benissimo, le barzellette, ma va benissimo, ebrei, e allora, quelle sui gay, allora mi pare di cattivo gusto. Ma come, ecco, il cattivo gusto? Tu parli di cattivo, sì, gusto. Di cattivo gusto, perché queste barzellette, sì, perché sono un po' a sfondo. Ma perché non si possono fare le barzellette sugli ebrei? Ma quelle, se, beh, come dimostra anche questa trasmissione, sono state già dette e fatte. No, ma io adesso ne prenderò, mi farò regalare questo libretto e ogni giorno voglio dire una barzelletta sugli ebrei. Ogni giorno. Sì. Ogni giorno una. Ma di cattivo gusto alcune che sono state raccontate. Ogni giorno perché una. Alimentano pregiudizi, alimentano luoghi comuni, sono stupide, stupide. Allora, Renzi ha detto che è contrario allo spostamento dei bronzi di Riace, dei bronzi, incredibile, è una cosa assurda. Si è contrario parlare di cose un siccome ci sono le elezioni in Calabria, secondo me, sì, là, non vuole inimicarsi i calabresi. I beh, calabresi. Questo può essere, certo. Questo può essere. Io sono uno di quelli che è sempre entusiasta dello spostamento delle opere d'arte, quindi i sovrintendenti mi detestano. Il punto è che però, a mio giudizio, spostare i bronzi di Riace da Reggio a Milano, a mio giudizio, non ha senso. Cioè, una cosa è dire io prendo delle opere d'arte italiane e le porto a giro per il mondo e sulla base di questo spostamento organizzo degli eventi, delle iniziative, ma per i milioni di visitatori dell'Expo, ma per quale motivo io devo portare i bronzi da Reggio a Milano quando dovrei portare i visitatori da Milano a Reggio? Perché ho bisogno di valorizzare la Calabria, non ho bisogno di inginocchiare ulteriormente la Calabria. Ma voglio dire a Renzi che innanzitutto da Milano a Reggio ci vai tu a vedere i Bronzi di Riace, cioè, le persone vanno a Milano a vedere l'Expo e all'Expo in teoria, poi io odio l'Expo e tutto, uno dovrebbe vedere il meglio dell'Italia a Milano, non è che poi uno prende l'aereo, spende 500, 600, 700 euro per andare a Reggio Calabria dove non ci sono voli, no? Allora, facciamolo questo grande treno che attraversa l'Italia con i Bronzi di Riace sopra per farli vedere a tutta Italia, non lasciamoli in mano degli inefficienti, inetti amministratori della Regione Calabria. C'è un signore, te l'hai riscordato, caro Parenzo, che si chiama Don Giorgio De Capitani. No, Don Giorgio De come Capitani. Si fa? No, mi scordo nulla. Come si fa? Il prete De Capitani, il parroco De Capitani, parroco. È stato messo pensionato. Per eccesso di alcol. No, no. È pensionato, non è più in provincia di Bergamo, credo che sia in provincia, non so di dove. Mi dispiace, mamma mia. Vabbè, comunque, ha detto alla la Torre, a Giulia La Torre, la figlia di uno dei due Marò, Marò, datti una calmata, rifletti, non la figlia del Marò che ha detto che l'Italia fa schifo, sì, eh? Datti una calmata, non scrivere stronzate, implora in ginocchio la clemenza della giustizia indiana, non accusare gli extracomunitari che non rispettano le leggi italiane. Tuo padre ha forse rispettato la legge indiana? Quando una persona è fuori dall'Italia, chi è? Non fa parte degli extracomunitari? Beh, adesso questo non proprio, eh. Giorgio De Capitani. Intanto la Meloni dice si offre in scambio. Se fossi Renzi o Napolitano mi offrirei in scambio. Se fosse Renzi o Napolitano, no. Non lei. Cioè dovrebbe andare. Cos'è questa cosa dello scambio? È una puttanata. Cioè, gli indiani non è che vogliono processare Napolitano, certo, Renzi, certo. Un deputato del PD, l'amico, certo. Vaccaro si è proposto come scambio. Vado io al posto loro, ma quelli vogliono processare. C'è qualche 5 Stelle che si propone nello scambio? Ma è una cosa ridicola. Ma se Di Battista, ad esempio, mi offro di andare in vai, amico mio, vai. Ma lascia perdere adesso i 5 Stelle. Scusa, lascia perdere i 5 Stelle. Ma questa cosa i... di offrirsi come scambio per andare in India al posto dei Marò, ma che puttanata è? Stupidaggine. Ma è una puttanata. Volete smettere di dire puttanate su questa cosa qua? Stupidaggine. Cioè, ma cosa vuol dire? Ma quelli vogliono processare, giusto o sbagliato che sia, vogliono processare i Marò, non la Meloni, non Napolitano, non l'Italia. Renzi, vogliono processare i due Marò, giusto o sbagliato, troppo lungo, contro il diritto, no. Proporsi come scambio è visibilità, ricerca di visibilità e basta. Cioè, a questi qua non gliene fotte nulla dei Marò. A molti, non sto questo dicendo la Meloni, no, a molti non fotte nulla dei Marò. Cercano visibilità con queste sparate. Cioè, quell'altro, ma caro PD, mi propongo al posto dei Marò. Ma ti proponi che te mandano via al confine? Manco ti fanno entrare, avacà, dai, Meloni. Fossi, ripeto, presidente del Consiglio, e fossi il presidente della Repubblica, chiederei al governo indiano di prendere me e rimandare a casa i miei militari. Prendere me? Ma non li vogliono, non li vogliono, vogliono processare i Marò. Oddio mio. Abbiamo con noi Vittorio Sgarbi. Vittorio, buonasera. Ecco. Come andiamo? Sono qua. Dove sei? Dove ti trovi? Sono in quale parte d'Italia? Per l'Expo ho fatto una serie di incontri. Che è sto casino? Fermati un attimo, che non si sente niente. Aspetta, eccola, ci sei. No, sono qua, mi senti? Sì, ti sento. Una serie di incontri per l'Expo. Ma allora, Renzi è contrario a questa cosa tua della cosa. Dunque, oggi il Presidente del Consiglio ha certificato che i Bronzi di Riace resteranno in Calabria. Una stronzata pazzesca. No, non è che ha certificato, ha detto la sua opinione. Siccome non siamo in dittatura, vige ancora una possibilità di autonomia di un ministro, come anche perfino al tempo del Duce qualche ministro aveva posizioni non corrispondenti a quelle di... Ma figurati se Franceschini dice qualcosa contro lei. Certo che Franceschini potrebbe patire l'influenza di Renzi. Io gli ho parlato l'altro giorno, mi ha confermato che la commissione la farà e ha anche confermato che la commissione metterà quel Bruno Zonardi, che è il principale esperto di restauro italiano, che ha detto che si possono spostare. Come si va sulla Luna, si manda l'uomo sulla Luna, si può spostare un Bronzo. Ma certo. Sarà... Vabbè, certo. Quindi questa voce è importante. Le ragioni per cui poi si fanno tutto questo can-can sono del tutto, come dire, illusorie. Cioè l'idea è che uno venga all'Expo e prenda un aereo per andare a Reggio, dove non soltanto ci sono mille problemi di varia natura, le strade per esempio, ma c'è anche un'accoglienza alberghiera talmente limitata che non ci sarebbe nessun vantaggio e un incremento notevole come sarebbe ovviamente esponendole a Milano. Per cui c'è una specie di follia che muove questi. Ma a dire, perché questi qua delle amministrazioni calabresi? Io adesso non voglio fare lo Sgarbi a tutti i costi, sono addirittura oltre quello che dice Sgarbi, a parte la cosa del treno che è una mia trovata e che può essere una provocazione, ma secondo me è realistica, cioè bisognerebbe fare un treno, i carabinieri dovrebbero sequestrare, la polizia, lo Stato italiano, sequestrare i Bronzi, metterli su un treno speciale, tu non lo vuoi dire questa cosa dei carabinieri, ma lo pensi Vittorio, lo pensi? No, devo dire che il mio massimo oppositore tra le persone autorevoli, che è Settis, mentre dice che non li vorrebbe spostare, li ha pretesi senza averli a Mantova quando ha fatto una mostra e dice: sono fatti in Grecia, sono greci e sono arrivati in Calabria per caso. Se la nave fosse naufragata a Fano, sarebbero i Bronzi di Fano. Magari dici tu, no? Calabria. Magari sono dici tu. Del mondo, dell'Italia, e l'Expo realizza questa condizione per cui Milano e anche la Calabria, con tutti i calabresi che ci sono, cioè non a Milano è pieno di calabresi, dici tu. Certo. Sì, ma poi diventa la capitale del mondo in quel momento, non si capisce la logica per cui bisogna pensare che sono sottratti, sono mostrati come la cosa più alta che la Calabria non abbia prodotto, perché sono fatti in Grecia. Per cui le motivazioni sono potentemente contraddittorie. Ma hanno avuto sfiga quello che dice lo stesso Settis. Ma la cosa, cioè, più grave, secondo te hanno avuto aspettato? Sono fragili, tu sei fragile, io sono fragile, prova a mettere chiunque 2500 anni sott'acqua, però erano fragili ai tempi di Pertini nell'81 le ha portate al Quirinale, stavano benissimo e ha detto che erano lì come simboli della democrazia occidentale, la stessa ragione per cui possono essere esposte a Milano dopo 30 anni, non si vede proprio l'argomento sono fragili, oltre a essere contraddetto dalla giusta posizione di Zanardi, speriamo che sia una voce, uno che dice che puoi mandare gli uomini sulla Luna, ci fa capire che è ridicolo che non possa spostare i Bronzi. Però loro insistono a dire sono fragilissimi, delicatissimi, si rovinano. Ma tutte bugie, falsità, menzogne di una, poi tra l'altro, che sta lì al museo, la quale li ha fatti travestire da spose, bene. Essendo consenziente, e pretenderebbe di essere quella che ne controlla la integrità materiale. Se non è stata capace neanche di difenderli da un fotografo che li ha travestiti, figuriamoci cosa può fare. Ma perché non è per stare lì e non come tu dici? Ma lo dice Gabriele Lavia, che non è nella polemica, dice: io vado, siamo sempre loro due ed io. Quando c'è una scolaresca, 28 studenti guardano dall'altra parte, io non capisco perché tutto il mondo non li può vedere, dovrebbero stare al Louvre e anche a Roma, cioè in un luogo dove tutti li possono vedere. Però allora tu devi arrivare alla conseguenza di questo ragionamento, Vittorio. Sequestriamo, cioè portiamoli via con la forza, su, e dai, arriviamo Ma questo richiederebbe uno Stato non democratico. Ma che non democratico? Una volontà politica che non ha nessuno. Ma tu stesso dici che hanno avuto la sfidilla, hanno avuto la sfiga di essere trovati in Calabria. Sì, questo sì. No, lo dice addirittura Settis, che è quello che è più avverso loro spostamento. Cioè fossero stati trovati. Che non sono calabresi perché devono stare in Calabria. Sono prigionieri in Calabria, sono sequestrati, peggio dell'Andrangheta, perché l'Andrangheta cosa fa? Prende pezzi di Stato. La regione Calabria, che non ha niente a che fare con i Bronzi, che sono dello Stato, cioè di tutti, pretende di avere un diritto su di loro che non ha. È proprio un'azione di privatizzazione. Se di sono peggiori quelli della regione Calabria, sono peggiori dell'Andrangheta, sono peggio dell'Andrangheta. Sì, naturalmente la cosa non deve essere intesa in senso letterale, ma in senso psicologico. Cioè loro pensano di avere quello che ha denunciato me Franceschini, che ha denunciato perché io avrei in qualche modo turbato l'animo, avrei fatto violenza privata alla direttrice. Ma non ne ho neanche mai parlato, ho mandato la lettera a Franceschini. Vabbè. Violenza perché ormai comunque Renzi non si possono muovere perché sono fragili. Pronto? Sì? E il conduttore? conduttore? Sì, sono il conduttore. Allora, devi sapere che sono stato in Trentino un giorno con Vittorio, caro Parenzo. Sì, a fare cose tu? Ma niente, io a incontrarlo, ero con Giorgio Grasso, altre persone, eccetera. Beh, abbiamo passato una splendida serata a Pergine. C'era anche una che... Sgarbi dice di non avere una fidanzata, invece, e poi alla fine viene sempre la stessa persona, una tale Francesca, bella ragazza, per carità, bella. Di dov'è questa Francesca, Vittorio, scusami, eh? Beh, lavora, fa le cose che deve fare, non è che... No, perché ti accompagna alla fine? Ma che ti frega? Ma perché devi entrare nelle lenzuola di... Ma perché sì, Sgarbi? Perché sì, certo, perché sì. Pensa perché... alle tue di lenzuola, no? Perché sono curioso, eh? Molto bella questa qua, l'avevo già vista una volta, molto bella, vabbè, comunque. E questo mi fa piacere. Vai, senti un attimo una cosa, ma a proposito, mi sta cercando il tuo avvocato e che dice, devi dire a Vittorio che si deve presentare il 15 settembre perché pare che... Chiama te, scusa. Sì, ma ha chiamato me, dice, non riesco a parlare col Vittorio, ti prego. No, l'ho registrato. Allora, no, ma dice che devi andare al Ministero dei Beni Culturali, non so fare cosa, che devi fare? Ma ti vogliono licenziare? Beh, sarebbe un'ottima cosa anche quella, così si tengono tutti quegli altri incapaci che hanno, si ritengono e siamo a posto. Ma questo per che cosa? Perché, ma io poi non ma sapevo. Per niente, non c'è una ragione al mondo. Ma scusa, non ho capito, tu sei ancora. Questa è la cosa che mi ha sconvolto. Io, ecco, ho mantenuto, ecco, quella cosa per cui sono nate le mille polemiche, sì, il mio assenteismo, eccetera. Che io sono in aspettativa, senza segni, da un sacco. Non ho voluto rinunciare al ruolo, ma sono senza segni. Ma perché non hai voluto rinunciare al ruolo? Scusa, non perché mi sembra che essere funzionario delle belle arti abbia un significato simbolico. Cioè, sei ambasciatore delle belle arti, dici te. L'ispettore, così fu il mio ruolo iniziale. Poi in realtà, perché ho avuto le aspettative? Che le funzioni politiche, quindi assessore, sì, sindaco, eccetera, impongono l'aspettativa rispetto alla funzione pubblica. Tutto no, qua. Però ho capito, Vittorio, tu non puoi tenere un posto di lavoro occupato per tanti anni, ci sono i giovani, le cose. Eppure... Beh, tanto non è che ci sarebbe qualcuno che poi, se non prendo lo stipendio, tengo un posto. No, quello non certo, esiste, non prendi lo stipendio. Cioè, la notizia è questa, che Sgarbi in realtà è in aspettativa dal Ministero del Beni Culturali. Come tanti altri lavoratori. In aspettativa però, senza segni. Ma da quanti anni? Sono nate le polemiche. Da quanti anni? Dall'85 sei in aspettativa. Ma adesso bisogna pure dire una cosa, Vittorio, io ti voglio bene e tutto, però sto stato italiano che consente che uno dall'86 in aspettativa da 30 anni. Vuoi sapere un altro esempio? Scalfaro, vuoi sapere un altro esempio? Amato, vuoi sapere un altro esempio? Tutti i professori che sono in Parlamento sono in aspettativa senza segni. Poi certo che se dura molto può ma essere 30, una... quasi 30 anni in aspettativa, sì, sei. Quasi 30 anni in aspettativa, questo sì, questo è un aspetto effettivamente, però non vedo il danno, nel senso che ma ci sono gente giovani disoccupati che magari vogliono un posto. Ma questo dipende dai concorsi che non ci sono, non è che sono io che non faccio fare i concorsi. Ma perché non te ne vai? Perché non ti dimetti? Perché non ti dimetti per Puntiglio? No, perché ora sempre che un giorno non rientri, non mica sono costretto a fare l'assessore o il sindaco, posso tornare ma a fare sì, figurati se vai a Venezia. Di più, che a un certo punto l'ho fatto per un anno, sono rientrato, sono rientrato e chi mi ha cacciato? Galan. Addirittura. Sì, io sono rientrato. Vabbè, per comunque, un anno e mezzo stavolta hai commesso qualche errore se ti vogliono cacciare. Che cosa hai commesso? No, perché la Corte dei Conti aveva aperto un caso sul fatto che io ero stato chiamato come sovrintendente rispetto a un concorso interno in cui avevano concorso altri. la cosa è che tu no, pensavi di essere stato eletto a Salemi non so che cosa, ma in realtà c'è un buco, c'è un buco, dovevi rientrare a lavorare e non sei rientrato a lavorare. Ma questo non è una cosa di pare di sì, comunque mettiti in collega comunque sì. Ti vogliono licenziare, questa in cosa. Ogni caso possono fare quello che gli pare, resta il fatto che io non ho preso stipendio, quindi non so cosa vogliono. Certo che è incredibile che il Ministero dei Beni Culturali voglia licenziare Sgarbi, è una cosa pazzesca, sì, o no? Cioè, a chi è che può venire in mente di licenziarti? Cioè, Vittorio, tu spiegami questa cosa. Ma non si capisce, ma sono queste questioni che sono legate a una burocrazia cieca, la quale ignora anche che non puoi chiedere niente a uno che ti aspetta senza segni, che gli devi chiedere? Vabbè, c'è il ruolo, resti il ruolo. No, perché ti faccio un esempio, se io fossi andato in pensione, avrei preso la pensione per questi 30 anni, sì, ringrazio il cielo. Cioè, non capisci che quello che io ho fatto ha un valore veramente simbolico. Allora io nell'85 vado in pensione, avrebbero dato 1500 euro, 1000 euro di pensione, non ho preso mai una lira, quindi io ho un argomento formidabile che rimanendo in servizio non vengo pagato, andando in servizio mi devono dare la pensione. Sì, vabbè, cioè a loro conviene mantenerti in non servizio, capisci la logica? Quindi quando aprono queste cose su di me, le aprono su uno che è in aspettativa senza segni. Sì, anche ma quella le condanne, è chiaro, i 6 mesi che mi hanno dati sono tutti legati all'aspettativa senza segni. Quello è perché non andavi a condanni uno che non prende la lira. Non prendo una lira, non la voglio. Quando mi dice Cicconi, ma perché non vai in pensione così prendi la pensione? Non la voglio la pensione, preferisco essere un funzionario di ruolo in aspettativa che non essere in pensione prendendo lo stipendio. Mi pare un argomento vincente, no? Sì, se io fossi andato via dell'85 avrei preso 30 anni di pensione. 30 anni sì, non li ho no. presi. Mi pare un argomento. Senti Vittorio, secondo. Ma dimmi una cosa, ma sono curioso di sapere che ne pensi su sta storia, che pensi che sicuramente pensi che sia un obbrobrio dell'adozione gay con Toscani, che la fotografia, i Fratelli d'Italia. Sì, quella foto lì non so capito perché l'ha fatta Toscani, ma la fotografia mostra un povero bambino disperato che deve scegliere se stare con due padri o con due madri. Questo è il senso di collocazione. Mi sembra che Toscani è figlio di un padre e di una madre. E tutti noi siamo figli di un padre e una madre. Se ci fosse toccato di avere due padri, probabilmente non se ne saremmo accorti. Però occorre anche capire che il diritto fondamentale è di quello che non può scegliere. Vabbè, allora, per te è un obbrobrio. Quello che non può scegliere ha più diritti di noi. Cioè, al capriccio di prendersi un bambino come un cagnolino, che è una cosa che mi fa orrore, corrisponde la necessità di un bambino di avere almeno una madre. Forse due madri vanno anche bene, ma due padri no. Perché due padri no? Perché la madre è una donna. Ora, io su questo non ho nessuna posizione astratta, ma credo che il diritto fondamentale sia quello del bambino, ma questi e che non quello vanno, del genitore. Questi che si vanno a cercare i bambini, che fanno sono dei pazzi, secondo te, quelli che vanno... Invece di prendere un cagnolino, prendono un bambino. Vabbè, ho capito. Perché non è che uno che non riesce a farli da averli per forza, se non riesce a farli puoi rassegnarti. Cioè i gay dovrebbero prendere un i gay meglio che prendano un cagnolino piuttosto che adottino un bambino, dici te. Prendete un bambino. No, non meglio che, possono fare quello che vogliono, ma prendere un bambino come un cagnolino è diverso da prendere un cagnolino. Se il cagnolino è nato per finire dalle mani di chiunque, il bambino in quanto pensante un giorno si chiederà dov'era mia madre, perché non ho avuto una madre, ho avuto due padri, benissimo, vorrei che no. Ma no, posso anche dirti che tecnicamente non è detto che sia un danno, perché se io fossi avuto due padri invece che o due madri non mi sarei accorto, però il diritto fondamentale sarebbe di avere un padre e una madre. Comunque guarda che viene evocato in dubbio, c'è quello che non ha avuto la madre che può lamentarsi. Comunque però, c'è gente che ci chiama incazzata, ma perché non si dimette, togli i posti di lavoro ai giovani? Si dimetta dal Ministero dei Beni Culturali. Perché voi fate della propaganda grottesca, mi dimetto, vado in pensione e prendo di uno stipendio che non prendo. T'ho spiegato che io non posso dare un posto, perché il posto viene dai concorsi. Se non c'è un concorso, nessuno può prenderlo al mio posto. Vabbè. Il mio posto è già libero. Vabbè, che gli devo dire a questo qua? Vai a fare in culo, che gli devo dire a questo? Non sa quel cazzo che dice, che ringrazio il cielo che io non ho mai preso la pensione né lo stipendio, contrariamente a qualunque altro. Vabbè, ciao Vittorio. Ciao. Che cazzo vuole questa zanzara molesta di merda, lui e quell'altro stronzo che gli sta a fianco? Sì, caro David, resteranno scolpite nella storia della politica italiana. E per esempio quello che ha detto ieri il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, qui alla Zanzara insieme ad Antonio Razzi sul suo recente viaggio. Ci sono delle ironie spettacolari sul web dappertutto sulla presenza di Salvini in Corea del Nord. Sui bambini. Sentiamo quella sui giocare, bambini. Eh? I bambini, secondo Salvini, in Corea del Nord, nella dittatura nordcoreana, possono giocare liberamente, anzi non giocano alla PlayStation, non sono prigionieri della televisione, teledipendenti come in Italia. E questo, secondo Salvini, sarebbe un bene, cioè sarebbe un bene il fatto che nella dittatura nordcoreana questi bambini non guardano la televisione ma stanno a giocare per strada, insomma fanno i bimbi, secondo Salvini. Io dico, uno ha costruito anche un capolavoro politico, no? Cioè che è quello di risollevare la Lega Nord dando un'immagine diversa. Sì, che era diversa. Tecnicamente morta, certo, questo è vero, questo. Perché devi andare in Corea del Nord? Con Razzi poi. Sì, ma in Corea del Nord. No, ma anche con chi vai? Vabbè, ma lascia perdere. Razzi è, da questo punto di vista, una persona molto popolare, dunque c'è anche un ragionamento da questo punto. Cioè, è una persona molto popolare. Arrendi. Non per i leghisti. Razzi è molto popolare. Sì, è un personaggio che piace per i leghisti. Sì, per Crozza. Ma non penso che tra i leghisti sia apprezzato. Vabbè, ma comunque è un personaggio personaggio popolare, popolare. Ma perché devi andarti a rovinare tutta la reputazione, tutto andando in Corea, no, a esaltare il regime nordcoreano, soprattutto. Ha ragione Razzi, la Corea è come la Svizzera, è pulita, non c'è criminalità. Questo si è letto oggi sui giornali italiani. Ieri alla Zanzara abbiamo ascoltato questa frase sui bambini. Sentiamola. C'è qualcosa che dobbiamo invidiare alla Corea del Nord? No, io mi tengo ben stretta la mia libertà. Detto questo, mi ha colpito il fatto che i bimbi possano giocare liberamente in mezzo alla strada dalla mattina alla sera fra di loro senza non hanno la televisione, non hanno la PlayStation, non si tele rincoglioniscono, però crescono da bimbi facendo giochi da bimbi. Su, dici, i bambini crescono meglio che da noi? No, questo non lo so come crescano, però ho visto dei bambini da quel punto di vista. Ho pensato che mio figlio, se dovesse giocare per strada a Milano alle 7 di sera, io qualche preoccupazione ce l'avrei. Cioè, per Salvini un genitore si deve preoccupare se un bambino gioca per strada a Milano oppure e non in Corea. Meglio la Peppa Pig. Dai, meglio la signora Peppa Pig che vivere in quel regime di uno che addirittura fa sbranare i suoi avversari. Ma quello pare cani. Che fosse falso. Ma dai, beh, su ragazzi, su, dai. Oh, Varin di Radio Padana dice che siamo scorretti, non so perché. Ma è tornato questo. Poi dice che vuole fare la cacca sullo zerbino di Radio 24. È sempre una signor persona Barino, conduttore di Radio Padania, che tu dici essere bene. Radio, come l'hai soprannominato? Radio tu? Odio. Radio Odio. Di solito metto insieme la dichiarazione di Parenzo della Zanzara, che diceva amici di Al-Qaeda eccetera, incitava proprio agli amici di Al-Qaeda a far qualcosa a Radio Padania con le telefonate. Un giornalista serio farebbe sentire la dichiarazione di Parenzo che incita la jihad, quelli di Al-Qaeda, e subito dopo l'amico ciabattante che dice taglierò la gola a tutti coloro che non lo fanno, non sono giornalisti professionisti, ma vi assicuro prendono uno stipendio ragguardevole. Pronto? Vuole questo? Facciamo la cacca sullo zerbino di Radio 24. Venga pure per farsi arrestare dai esatto. Vigilantes qua sotto. Venga, venga. A proposito di mafia, andrangheta, pisciaturo. Un saluto ai pisciaturi di Radio 24. Prima o poi gliela facciamo la cacca sullo zerbino. Ma pensa pure che faccia ridere sta roba, capito? Signor Varin. Pensavo fosse. Senti un ascoltatore. L'ISIS è da eliminare con le bombe al napalm. Ascoltatore della Radio Padania, questo. Sì. Volevo solo dire una cosa: ci sarebbero i presupposti per denunciare quel maledetto che ha parlato di sgozzamento, che fa il paio con quel boia dell'ISIS, che sarebbero tutti da sterminare con una bomba al napalm. Napalm, poi sarebbe sono bellissime Napalm. Queste nonnine di Radio Padania. Napalm. No, non è che si arrabbia, le nonnine di Radio Padania. Vabbè, questa chiamano, c'ha ragione, no? Però. Ma le nonnine omicida si chiamano, queste che telefonano. L'altro giorno, un po' vanno male, l'altro giorno, guarda Varin, è capitato che sono uscita da casa, da Viale Monda, e c'era un negro. Ma dice, guarda, dica, cosa faceva sto negro? Cosa faceva? E camminava il negro. Come camminava? E l'hai denunziato? Certo! E l'ho sputato per terra per mandarli via tutti! Le nonnine di Radio Padania. Poi chi è che gli ha scritto coglione di merda? Qualcuno gli ha scritto coglione di merda. Varini. Faiz Geniba mi ha scritto una cosa veramente, uno dice ma scrivimi qualcosa di meglio, bastardo di un coglone di merda. Allora Faiz, senti, vogliamo un attimo imparare per bene l'italiano, almeno le parolacce, ok? TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Dopo la telefonata tra Putin e Poroshenko con l'accordo sulla tregua, Mosca pone condizioni e Kiev propone un muro sulla frontiera orientale. Ho Obama ai paesi baltici, la NATO vi difenderà e a Putin dice non si cambiano i confini con le pistole. Disgustato dalle decapitazioni dell'ISIS, faremo giustizia. Renzi presenta il piano sulla scuola, riforma non del Premier ma di tutti, provvedimenti a partire da gennaio, ospite del TG3 Massimo D'Alema. Sul web le linee guida della riforma della scuola, entro un anno assunzione per 150.000 precari, scatti basati non sull'anzianità ma sul merito. Stipendi degli statali fermi anche nel 2015, il ministro Madia conferma non ci sono i soldi per sbloccare le buste paga ormai congelate dal 2010, le proteste dei sindacati. Un anno fa la morte di Valentina Cole nell'ospedale di Orbetello dopo una banale caduta, ieri sera la fiaccolata della famiglia e degli amici per chiedere la verità. Al via in Puglia, 4 giorni di festa da 10 milioni di dollari, matrimonio indiano da favola ma con pioggia e polemiche nella terra dei Marò. David? Sì. A Latina c'è un signore, un tale Coluzzi di Forza Italia, Giuseppe Coluzzi, consigliere comunale. Giuseppe Coluzzi di Forza Italia, consigliere comunale. Poi si è pentito, ha detto che era una provocazione, ma come una provocazione. Dice che per lui si potrebbe anche fare una statua di Hitler in città. Una statua di Hitler. Capito? Avrei bisogno di dire due paroline a questo consigliere comunale. Sì. Avrei bisogno, se possiamo un attimo chiamarlo, bisogna di dire due paroline a questo signore. Un attimo solo, adesso. Se è possibile, adesso arriva. Bisogna dire due parole a questo signore. Che peraltro vale. Aspetta, fermo. Sì. E dai. Gennaro, Reggio Calabria. Gennaro. Buonasera, signor Cruciani. Dimmi. Dunque, volevo dire che noi non siamo in Africa qua, a Reggio Calabria. E chi ha detto? Chi ha detto che lei è in Africa, scusi? Chi ha detto che lei è in Africa? Perché si sente sempre parlare per il fatto dei bronzi, che è difficile da Milano a Reggio Calabria venire, tutte le difficoltà. Beh, è difficile, mancano è difficile. Ristoranti, mancano alberghi. Un po' di strutture mancano, amico mio, però, insomma. No, ma perché? Ho capito, ma lasci perdere adesso. Sei venuto, non hai trovato da dormire quando sei venuto. Sono venuto tante volte, amico mio, e i primi a denunziare che le cose non funzionano sono proprio i calabresi, sai? Sì, noi paghiamo le tasse, siamo. Ma lo so che le pagate, infatti voi dovreste andare dai vostri politici che vi hanno governato con la vostra complicità. Non abbiamo necessità di portare i bronzi a Milano. Ma come no? I bronzi ma non sono suoi, i bronzi di Milano, non sono della Calabria, no. Capito? Sono dello Stato italiano. E allora mettiamo in circolazione tutti i monumenti. Ma sì, va benissimo. Facciamo venire gli altri monumenti a Reggio Calabria, al museo. Ma quale Reggio Calabria? Perché non li facciamo venire? Ma non lo so, Gennaro, la cosa principale è questa, io non ce l'ho con i calabresi, a me non me ne frega niente dei calabresi, dei milanesi. C'è l'Expo a Milano. Poi l'onorevole Garbi viene sempre qua, in visita. Beh, viene sì. Sempre. E allora? Non che significa? So, non è che vuole. Male. Ma non vuole rubare i bronzi di Diace, li vuole portare a Milano per l'Expo, a farli vedere alla gente che viene lì. Meglio. Ma avrete. Se viene un po' di gente qua, ma la gente viene pure alla Calabria. Dai, su, che non siete riusciti a fare i soldi con. Non siamo in Africa. Ma che c'entra l'Africa? Magari in Africa è meglio. No, non possono venire da Milano. Un'ora di volo un'ora di volo, cos'è? Ho capito, Gennaro, ma no, ma ho capito, un'ora di volo, ma la gente fino ad oggi sono stati amministrati sempre, e gestiti malissimo. Questo è il punto. Di cose brutte. Ma no, Gennarino mio, fino ad oggi quei bronzi sono stati gestiti malissimo. Se potessero parlare, vi manderebbero a quel paese quei bronzi, se potessero parlare. Direi, sì, vabbè, no, quel paese, dai. Hai capito o no? No, non è così. No, invece sono non stati. È così. Non è mi così. Mi dispiace, ma dovete cercare di avere un po' di rispetto verso questa. Ma terra. Noi abbiamo rispetto, vabbè. Ma non per chi ha amministrato in questi anni. Mauro Mantova, ma chi è Mauro il solito? Chi è? Oh, Crociani. Oddio, è arrivato, è tornato. Ma attacca a te quel coglione di Parenzo. Tornato? Quel coglionazzo lì. Perché? Che ha fatto? Mamma mia. Che ha fatto? Stavolta che ha fatto? Scusa, che ha fatto? Ha sparato di quelle minchiate. Ancora vivo. Che la metà. Ma ancora vivo? Ma muori te, pezzo di merda. Ma che ha fatto? Perché? Che ha fatto? Scusa, Mauro. Che a parte che mi hanno detto. A parte che mi hanno riferito. Scusa, mi hanno riferito che hai chiamato. Vabbè, d'accordo. Mi hanno riferito qualcuno, un uccellino. Mi ha riferito che sei intervenuto pure quando non c'eravamo noi. No. Ma sì, no. Mi hanno detto di sì, che sei intervenuto anche quando non c'eravamo noi. Come ti sei permesso di fare questa cosa, scusa? Ma che cazzo dici, Crociani? Ma che cazzo dici? Sì, ma sei non ho chiamato, c'era quell'altro di Milan che qua mi fa girare il coglione poi, perché l'avrà preso a schiaffi. Ma non c'era Milan, non so chi no, c'era. Marco, no, Milan. Vabbè, sei intervenuto, mi hanno detto che sei... Ma non lo so, chi già non è importante. Ma mi hai detto, mi hanno detto che sei intervenuto, ma io te lo proibisco. Sì. Porca troia, dico di no. Vabbè, ma che vuoi adesso? Oggi ero in Calabria. Pure in Calabria, che stai a fare in Calabria? Ero dove hanno arrestato l'ultimo boss lì, Cosentino lì, che cacchio è? Quello lì, vicino lì a casa sua. Ma che sei andato a fare, scusa, non ho capito. Ma Mauro. I cazzi miei, sono andato a fare i cazzi miei, cosa sono andato a fare? Vabbè, ho capito, ma Mauro da Mantova sei andato giù a... Vabbè, ma che vuoi stasera? Sono andato a Scilla. Vabbè, aspetta un attimo, che c'è la borsa. Un attimo, aspetta che c'è la borsa, poi mi dici che cosa vuoi stasera. Che diavolo vuoi stasera, Mauro? Ieri ha detto di quelle minchiate a Parenzo che bisognava macellarlo lì dove era, senza neanche processo. Aspetta. Ha detto di quelle stronzate di metà parte. È un attimo. Sei una zanzara. Depravatone, mi piace anche per quello, anche Parenzo un po' depravato. Siete proprio delle bestie. Scrivendo un messaggio, sto scrivendo su Facebook, che fatica Parenzo, che fatica. Allora, ti racconto una cosa incredibile. Qual che mi è successa ieri? No, sto scrivendo, sto rispondendo. Cioè le donne sono incredibili, guarda, incredibili, lasciamo perdere. Ma cioè, volta non ho capito, dovrei raccontare tutto, qualche volta racconto Crociani. Tutto, ti giuro, racconto tutto. Beh, allora, a no, chi aspetta. Stai rispondendo? Scusami. No, aspetta, adesso torniamo fra poco con Mauro da Mantova. Ti vorrei raccontare quello che l'altro giorno... Ma è vivo quello lì ancora? Una mia amica, è vivo. Mauro, sei vivo? Mi dispiace. Chi sono e come? No, Parenzo pensa che sei magari morto. Magari è uno degli ultimi giorni, dai, farlo parlare. Ti vuole morto, Parenzo, ti vuole morto. No, per carità. Vabbè, allora, mi chiama una mia amica che lavora in televisione, non posso fare il nome, naturalmente, no? Cioè, mi manda un messaggio. Ah, lo faccio io il nome. E mi scrive, no, non lo sai, perché non te l'ho raccontato. No, ma no, ci sono tante amiche che lavorano in televisione. Io farò il nome, entro ma no, ma non sai nemmeno il ruolo. Farò il nome. Vabbè, farai il nome. Allora, a un certo punto dice, come stai? Bene. Detto, combatto, come sempre. Lei dice, anch'io, soprattutto con i sorrisi. Io ho fatto, vabbè, ma il fidanzato ti sopporta? Chiedo io. E lei, l'ho cambiato quest'estate. Gli ho fatto saltare un viaggio negli Stati Uniti. La sera prima della partenza mi sono innamorata da un'altra parte. Io ho detto di un altro? Di un'altra. All'inizio non pensavo, che vuol dire? No, ho detto che vuol dire? Quello che ho scritto, cioè che stai con una donna? Mi togli il saluto? Ma figurati, gli ho detto, io ti tolgo il saluto. Anzi, un giorno ci prendiamo un caffè e ti racconti. Ma scusa, ma lo sapevi già o hai scoperto tutto dopo? Beh, ha detto entrambe le cose. Poi lei cercava di cambiare discorso. Gli ho detto, ma lei è bella? Sì, femminile, molto elegante. Ma il tuo fidanzato come l'ha presa? Beh, molto male. E anche i miei genitori. Cioè, capito, questa qua ha lasciato il fidanzato il giorno prima. A leggere un messaggio privato. Ma non è messaggio, non ho detto niente, non ho detto nome, cognome, potrebbe essere chiunque. potrebbe essere chiunque, non dirò mai il nome, che poi chi se ne frega, cioè non è una persona conosciuta. Sì, ma la mia amica, c'ho tantissime amiche che ho. Questa mia amica, cioè il giorno prima di partire col fidanzato in vacanza, lo ha lasciato. e si è messa con una donna, una cosa spettacolare. La voglio abbracciare. Ottima trasmissione, sempre la visione. Beh, il commento del fratello di Dell'Utri, non so, che gente. Il mondo va così, bisogna arrendersi, si può passare da un uomo a una donna, ci si può fidanzare con un uomo, lasciare un uomo e mettersi con una donna, tutto normale, io non mi sono stupito per niente, certo le modalità incredibili. Poi perché la famiglia con... no, beh, ho capito, ma si è messa con una donna, vabbè, ha scoperto di essersi innamorata di una donna, e pazienza ragazzi. Ci sono cose peggiori, no? Possono succedere cose molto, no, molto più imbarazzanti, molto più imbarazzanti. Mauro? Cosa c'è, Cruciani? Che c'è? Dimmi, dimmi. C'è, hai, chiamato allora, già... hai chiamato tu, cosa c'è? Hai chiamato allora, tu? Già 400.000 euro all'anno a te per far incazzare la gente e dire... cagate a volte. Ma spesso. Chi ha detto chi è che prende 400? Tu figli 400.000 euro al ma anno. Ma no, magari, amico mio, magari non è così. 400.000 frustate al mese, però, non all'anno, al mese. E quell'altro ricchione o biricchione, perché diciamo che su 10 volte che fa sesso una con una donna e 9 con un uomo, perché l'hanno capito anche i sassi che è un bisex. Quel ricchione ebreo di merda di Parenzo. Ma perché muoiono sempre persone sbagliate? Questo io... Ma no, è che tu sei un coglione. No, ma dico in generale. Ma cosa ha detto di sbagliato stavolta? Scusa, cosa ha detto di sbagliato? Ascolta, quando ieri, non so se è stato ieri o l'altro ieri, che si parlava che la JP Morgan e la Goldman Sachs, le due che più grosse banche ebreo e franco-americane, che sono le più delinquenziali, che hanno fatto chiudere. Vabbè, allora che fanno? Che hanno fatto chiudere la Lehman Brothers perché è l'unica che non è. Vabbè, allora? Dico, ma come si fa a finanziare i matrimoni gay? No, ma so. Ma, ascolta, ma come non fai a fare povero. Figli con due donne? Non ha capito niente. Ma come fai a fare i figli? Me lo devi spiegare come fai a fare figli. Ma non ha capito niente, poveretto. Ma... con due uomini li adottano? Ma vai a fare il culo, dai, dai, ascolta Cruciani, via volta, così vado a comprare al supermercato un figlio! Che cazzo dici, Cruciani? Dio cane, che cazzo dici? No, ma non puoi bestemmiare così, che dai, su. Che cazzo dici? Andiamo al supermercato a prendere un ma figlio! Questo è scemo proprio, ma questo è pazzo, no, dai, ma chiudilo e mandalo a quel paese, dai. Questo che vuoi dire? Vado al supermercato, sì, senta, ma chiudilo, ma lei è un deficiente, ma come si permette? Ma pure bestemmiato, cretino che non è altro, ma chiudi tutto, ma mandala a quel paese e chiudi, ma non intervenga mai più, ma come si permette? Spera che la denuncino, guardi. Spero coglione. Che la denuncino, così l'abbiamo finito ma di sentirla dopo voi, questa bestemmia. Sbatti il coglione, ma vada via, cretino, che non è altro, maleducato, imbecille. Spero che ma la denuncino per una bestemmia, così non telefona mai più. Adesso la denunceranno per sempre, l'abbiamo eliminato il problema. Lei è un maleducato, lei è un maleducato e per fortuna la denunceranno, per fortuna la denunceranno, guardi. Per fortuna la denunceranno ed è finita, per lei è finita. Finita per lei è finita con oggi ha chiuso di telefonare ha finito con oggi per fortuna ha chiuso oggi ha chiuso il 3 settembre è stata la sua ultima parola vedrà che la denunceranno per fortuna lei ha chiuso se mi lasci non vale non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Non so come può aver preso questa telefonata una persona che ha scritto canzoni per tantissimi artisti italiani. Inaccettabile, dillo anche tu, inaccettabile. Ma sì, ma è Mauro D'Amato, lo sappiamo. Cioè, ma no, appunto, non va fatto passare, un cretino. Va fatto passare. Chi ha uno chiama, quello c'ha 40 telefoni, che ci posso fare io? Quello c'ha 40 infatti, telefoni. Ma mandalo a quel paese, chiudi, basta. Non so cosa possa avere ascoltato, possa avere capito di questa follia, di questo manicomio. Gianni Belfiore, che è paroliere, storico collaboratore di Julio Iglesias, come sentite, e che ha scritto... Buonasera, come sta, caro Belfiore? Molto bene, molto bene. Ha sentito che manicomio qui, sì, manicomio. Ma siete eccezionali. Quello che dico pure io, però, lasciamo perdere. Scusi, Belfiore, innanzitutto, ma lei che ha scritto per Julio Iglesias, addirittura per la Mussolini, per la Zanicchi, poi per la Mussolini ce la spiega sta cosa, ma per un sacco di artisti importanti anche, no? Adesso vuole scrivere una canzone per la Boschi, ma adesso questo mi sembra un po'... Come mai? Perché le è venuto in mente di comporre delle strofe, delle delle rime, delle, come si dice in gergo tecnico, Belfiore? Versi, vabbè, diciamo versi, vabbè. Diciamo dei versi per il ministro Boschi. Cioè, cosa la colpisce del ministro Boschi? Scusi se glielo dico. Ma del ministro Boschi è il mistero dei tratti del viso, sì. Cioè ha un qualcosa, sì, di misterioso che lei non sa di avere. Sì, qualcosa di misterioso che lei non sa di avere. Cioè mi attrae. Naturalmente io parto da un'esperienza di navi, io sono stato commissario di bordo per 15 anni, ufficiale di coperta, per cui ho visto passare molte donne. E naturalmente da un punto di vista professionale, soprattutto, per cui noi dovevamo fare molta attenzione, sì, dai tipi di donne che c'erano sulla, sì, nave, perché se succedeva qualcosa si dava un casino, perché facevano la rivoluzione e via. Cioè, però scusi, capito, che cosa ha di più? Se uno dedica una canzone a una donna, questa donna deve essere molto molto particolare, no? No, ma in effetti lei rappresenta... Che rappresenta? Lei rappresenta le donne in carriera, che non riescono a conciliare il lavoro con la vita privata. È chiaro, è difficilissimo. A un certo punto Iglesias, innamoratissimo, sì, della moglie, ha dovuto rinunciare ed è ancora innamorato ora, però ha dovuto scegliere la carriera. È un grosso problema. Per cui secondo lei il fatto che non trova un fidanzato è perché ha scelto la carriera, la Boschi? Ma non è che non trova un fidanzato, c'è anche un problema di stampa, sono seguite e sì, tutto quanto, sì. C'è un problema grossissimo. E quindi la privacy è completamente fottuta. Scusi, ma com'è che fa a prima vista fa immagine? Come sono queste strofe? Lei dice che potrebbe... Non so, secondo me quella è la frase. È difficile fare la prima frase di ogni canzone. Sì. In effetti il giudizio delle canzoni, specialmente con Iglesias, si dava titolo e prima frase. Titolo e prima frase lui non ascoltava neanche. Se funzionava, titolo e prima frase va bene. Vabbè. Praticamente la canzone dice, sì, a prima vista, che è una grande verità, cioè fai innamorare, sì, per quel tuo fascino vellutato che non si lascia decifrare. Sì. La forza è nel decifrare. Nel decifrare. Poi, Sei come la compagna di scuola del liceo, sì, il simbolo dell'amore dove il sesso si fa reo. Cioè, perché secondo lei no, la Boschi non ispira sesso? No, non che non ispira sesso, è la compagna del liceo che io pensavo di avere sbagliato, sì, cioè di avere esagerato, di avere fatto una cosa troppo romantica. E invece? Invece ho avuto il riscontro che c'è un gruppo di 30, sì, ragazzi che l'hanno invitata a Milano, sì, e hanno fatto loro questa frase. Io pensavo di aver sbagliato, perché dopo che l'ho scritto è successo un fatto che vi voglio raccontare. Cioè? C'è stato un errore di battitura, sì, per cui al giornale, a chi era arrivato il simbolo dell'amore dove il sesso si fa re, che cambiava completamente il significato. Beh, certo, il sesso si fa re, il sesso diventa il grande protagonista, insomma, no? Esatto, per cui a un certo punto con l'ufficio mio eravamo in dubbio, abbiamo detto ma cosa facciamo? Ma qua siamo in un dilemma, cioè, o sì, pensiamo, certo, che le ragazze siano, sì, vergini e si fa reo, oppure si fa re come sono ora. A un certo punto abbiamo messo si fa reo e penso di aver indovinato. Perché lei non ispira tanto sesso alla signora Boschi, diciamo la verità, le ispira più tenerezza, dolcezza, carezze. Per esempio la seconda strofa, fa come fa? D'amore, più però. Ti guardo, com'è la storia? Là? Più ti guardo, la seconda come fa? Più ti guardo e più mi trovo, credo, o no? Allora, più ti guardo e più mi trovo con i pensieri a immaginare come il tuo corpo accarezzato saprà fremere e vibrare. Beh, qui no, però qui saprà fremere e vibrare, Esatto. Beh, per cui c'è un aspetto morboso, c'è un aspetto esatto, sessuale qui, no? Dice, tanto sublime, tanto impossibile da dire, per questo posso solo immaginare. Comunque, da un punto di vista di interpretazione, sì, e da un punto di vista di paroliere e di coso, la difficoltà sarà nel far cantare nella maniera giusta i tre immaginare, sì, E poi secondo me il tocco veramente sì. di cui sono contento, a volte non lo sono, è dove dice Elena o Elena. Ah, Elena. Invisibile catena. Ah, Elena o Elena, invisibile catena? Sì, esatto. E che vuol dire invisibile catena? Invisibile catena, cioè ti strega senza che tu te ne accorgi. Ah, addirittura. Ah. Comunque lei è un po', è molto affascinato da sta bosca, ma ci ha parlato per telefono? No, non ci ha parlato. Lei dice da avere questa cosa. Sì. No, lei è stata molto carina. Sì, ha risposto riguardi. Su chi ha detto che sono lusingata, che vorrebbe Cesare Cremonini come. Esatto, ha avuto una reazione splendida. Vabbè. Comunque, il fatto di immaginare, io l'altro giorno ho ascoltato Mina in Non Credere. Sì. E ho trovato un caso dove il valore aggiunto della cantante è il 70%, perché come ha fatto i Non Credere è una cosa magica. Ma lei chi vorrebbe come cantante per questa canzone per la Boschi? Naturalmente lo devo dirigere io, appunto, Cremonini. Cremonini è quello che può fare una cosa giusta. È l'unico, e se non vuole mettiamo un secondo. Se non vuole andiamo in Spagna. Cioè? Alejandro Sanz. Alejandro Sanz in Spagna, proviamo, sì, lo conosco Alejandro Sanz in Spagna. Esatto. Ma scusi un attimo, ma lei ha scritto una canzone per la Mussolini, delle canzoni per un album per la Mussolini, com'era? Meglio come cantante o meglio come politica secondo lei? Ma allora ha venduto in Giappone, allora aveva mercato in Giappone, stranamente che poi la canzone non me la ricordavo, l'ha riproposta qualche tempo fa Radio Italia. Sì. E poi insomma mi è sembrata abbastanza carina, cioè io non la consideravo una canzone ancora attuale, dice. Vabbè. Comunque guardi, non ci vuole, certo, pure la canzone per la Boschi, bel fiore, lei è una persona, cioè perché proprio, sembra un atto proprio di quasi di servilismo, di non so come dire, di lecchi. Ma io vi dico una cosa, quando al livello che sono arrivato aver scritto 80 canzoni per Iglesias, ogni volta che io scrivo una canzone vado contro di me, cioè? Perché non potrei superare quel periodo, quel momento. Ma perché proprio un ministro? Cioè, quanti guardano la Boschi, lei proprio ho scritto il testo di un brano dedicato al ministro perché la prima politica che unisce bellezza e un alone di mistero. No, ma avete visto quello che ho scritto per Bill de Blasio? Sì, il sindaco di New York. No, vabbè, ho capito, però. Cioè, qualcuno un po' può eccessivo, dire. Dai. Sì, sembra quasi, sì. No? Una cosa da regime, no? Ma no, da regime si potrebbe pensare, cioè di cose, ma io ho visto la donna e non il ministro, infatti vi voglio raccontare una cosa con un mio collega una volta sbarcati, un giorno l'ho incontrato e mi ha detto, ma dice qua a terra ci vogliono raccomandazioni di qua di là, e lui mi ha detto, ma noi pensavamo solo alle donne, che raccomandazioni politiche, noi non capiamo niente di politica, di niente. Quindi comunque guardi, a me da quel punto di vista, a me la Boschi mi ispira proprio zero, non capisco perché lei si possa essere ispirata dalla Boschi, a me ispira zero. Vabbè, Belfiore, la ringrazio, a presto, arrivederci. Saluti. Grazie a voi, ciao, complimenti, ciao. Siete... grazie, ciao. Ciao. Stavo pensando ancora a Mauro da Mantova. Stavo pensando ancora a Mauro da Mantova, quello che ha potuto dire Mauro da Mantova. Ma è pazzesco, dai, veramente scandaloso. Antonio da Firenze, Antonio. Bisogna chiedere scusa che non l'ha fatto tutti gli ascoltatori. Sì. Buonasera, mi sente? Sì, dimmi. Buonasera, ha visto che ci ha ritornato lei sull'argomento, ha ragione, insomma, tipi come quel signore da Mantova sarebbe meglio riuscire a pigiare il bottoncino al momento. Ragazzi, ma non è che si può controllare tutto, questo qua è un talk estremo, è un talk estremo, è un talk estremo, ho capito, sarà scappata grave. Una cosa, e vabbè, d'accordo, è grave, che devo fare? Molto. La voglio ammazzare, è grave, ma ammazzare molto. No, ma appena interviene mandarlo via. Lasciamo stare queste estremità, ma basta attaccare la spina e grazie, insomma. Ho capito, ma questo qua non è il coso, ma non stiamo a... Vabbè, ho capito, ma c'è un limite. Ma non ho fatto nulla, ma non è che volevo... Cioè, ha sbroccato a un certo punto. Non è che ha sbroccato, è un matto quello lì, è un matto a piede libero, è un matto a piede libero. Meglio non parlarne, se no gli facciamo pubblicità. No. Comunque, io chiamavo per il discorso dei bronzi Riace, come avete qui, poi tra poco c'è l'esercito di Mauro che si incazzerà, il famoso esercito di Mauro. Dai, tutti questi pagliacci, questa gente qui non c'è. È gravissimo quello che ha fatto sto pazzo scatenato. Ma che esercito di Mauro, branco di matti, dai. L'esercito di liberazione. Ma questo è un pazzo maleducato che addirittura ha bestemmiato, ma si deve vergognare, si deve beccare una bella denuncia anche. Ma da chi la denuncia? Non ho capito, da chi? Dalle associazioni? Ma ha offeso milioni di persone, cioè non si era mai visto uno che bestemmia. Ma cioè, davvero è stata una un'imprecazione, cosa... no? Ma che imprecazione? Non c'è da giustificare quello. Ma non sto giustificando. Schifoso, veramente, il fatto che sia passato. Vabbè, in Antonio, onda. Che vuoi? Su, dimmi. No, no, volevo dire appunto col discorso dei bronzi di Riace con il dottor Sgarbi, eccetera. Quando noi vogliamo andare a vedere, ad ammirare delle opere d'arte, andiamo nei musei e paghiamo un biglietto, giusto? Ecco, per cui li porterei all'Expo a Milano, nella sala, fare un pagare il biglietto e il 50% dell'introito darli alla regione Reggio Calabria. Penso che tutte le polemiche verrebbero placate, insomma. Cosa ne pensa? Ma che ne so, cioè, non lo so, ma la cosa fondamentale è portarli via da là e farli sentire e farli vedere, farli ammirare in un altro posto. Non è che uno deve essere obbligato durante l'Expo, non mi sembra una cosa assurda, dai. Assolutamente no. Dai, ciao, però, ciao. Ciao. Lei comunque ha un merito, guardi. Sì, ha creato un luogo, anche se virtuale, dove tutti i pirla d'Italia si possono ritrovare. Gianfranco, Trento. Pronto? Dimmi Gianfranco. Ciao Cruciani, senti, al di là del fatto che sono un vostro ascoltatore di qua e là, io volevo esternare un po' la mia impressione su Radio Padania, sul conduttore, io non so neanche come si chiama, non mi ricordo, non ascolto Barina, mai. Beh, allora che c'è? No, l'ascolto a volte quando mandate gli spezzoni voi. Niente, io volevo dire che dovete guardarsi un attimo dentro e capire che è un deficiente plurimo. Perché? Pluritardato. Ma perché, guarda, io te lo dico onestamente, io... Buonissima prima di te, e a volte contraddico dentro di me il pensiero di Parenzo, che ho detto anche lui, vabbè. Però insomma sto qua, vieni qua, si pone in un modo talmente obsoleto e anche infantile, si pone dice? La radio con i suoi poveretti di ascoltatori in modo ingenuo. Ah, ma quello fa il suo mestiere, che vuol dire Varin? Fa il suo mestiere. Ok, anch'io faccio il mestiere Giuseppe, sono un altro trasportatore. Anche tu fai il tuo mestiere, ci sarai fai il mestiere. Ah, ma a proposito di autotrasportatore, che succede nelle piazzole? No, io non frequento le autostrade, sono con un furgoncino veloce, in città, quindi per fortuna non mi riguarda. Cioè, non vai nelle piazzole, cioè non frequenti le piazzole delle autostrade? No, per fortuna no, nel senso, non per fortuna che non vorrei frequentare molto. Perché? Perché non ho nella mia zona, nei paesi, nelle città, nella provincia di Trento e anche di Verona, di Trento, però non in autostrada. Vabbè, Gianfranco. Ho trasportato farmaci, quindi sono molto di fretta, quindi anche vabbè. Ciao. Con noi, grande ritorno alla Zanzara, professore avvocato Carlo Taormina. Buonasera. Come andiamo? Buonasera. Come andiamo? Ci lecchiamo le ferite, Beh, ma lei si è arreso troppo presto, avvocato. No, io non mi arrendo a niente. A che cosa mi devo arrendere? Allora, innanzitutto Parenzo non è d'accordo, te lo dico subito. Io voglio dire qui, pubblicamente, dalla Zanzara, che il professor Taormina, condannato a pagare 10.000 euro in primo grado, naturalmente, una condanna per discriminazione da parte del tribunale di Bergamo per alcune frasi pronunciate qui alla Zanzara, ha tutta la mia solidarietà, non solo tutta la mia solidarietà, per una condanna assurda, ridicola. Adesso non si può nemmeno dire una frase che uno viene condannato per discriminazione semplicemente perché ha detto una frase, cioè non voglio assumere un gay nel mio studio professionale, nel mio studio d'avvocato. Non ha fatto nessun atto atto, cioè non è che ha fatto un atto di discriminazione, ha detto una frase ed è stato condannato per una opinione, perché non ha discriminato nessuno fino a prova contraria. Magari potrebbe aver magari se si presentava qualcuno poteva discriminare qualcuno, non si è presentato nessuno, non c'è stata una situazione di questo tipo. Sentenza ridicola, ridicola. Allora io invito tutti a donare un euro, non perché non ce li abbia Taormina, ma perché basta con questa storia, a questa associazione che lo ha denunziato. Com'è che si chiama l'associazione, Parenzo, avvocati LGBT? Ma poi può esistere, sì, io dico, la dico tutta, esiste anche negli può Stati esistere Uniti, un'associazione, certo, di avvocati, ma dai, esiste anche negli Stati Uniti contro le discriminazioni, ma è una cosa che nelle democrazie avanzate come in America esiste del normale. Avvocati, guarda, io tutelare sono, dei diritti. Io innanzitutto sono molto meravigliato dell'atteggiamento di Parenzo. No, ma mi può dispiacere, capisco, per la tua condanna da un punto, no, di non vista. Ti dispiace, no, di voglio, no, guarda, dopodiché dico, se c'è una legge, secondo me, giusta, che tutela. Scusa Parenzo. Quella legge voglio, per me è giusta. No, ma, quindi, io ti voglio dire una cosa. Anzitutto, credo che le leggi debbano essere applicate per quello che sono. Vabbè, certo. e non per come si pensa che possano, che dovrebbero. Vabbè, quello essere. Poi vedremo come che succederà. Appunto, io devo dire che mi sento fortemente limitato anche oggi che voi mi avete chiamato e vi ringrazio. Vi ringrazio perché mi date modo di dire chiaramente qual è il mio stato d'animo in questo momento, ed è uno stato d'animo che dura da parecchio tempo, perché sono stato veramente colpito dal contenuto di questa sentenza e ho preoccupazione a parlare, perché naturalmente un'altra cosa che io dovessi dire a questo riguardo andrei incontro a queste conseguenze. Allora io vorrei far capire alla gente che non è il caso o il fatto che riguarda me personalmente, ma è un fatto che riguarda tutti i cittadini italiani. Ma non è vero, basta non essere offensivi, cioè basta non usare toni offensivi. Ma non è stato condannato per offese, non è stato condannato per le frasi per che ha detto discriminazione, certo. Io non sono stato offensivo. Se io fossi stato offensivo nei confronti di qualcuno, beh, hai detto che sono anormali, hai detto che sono anormali i gay. Ma questo è un altro discorso, queste sono mie valutazioni. Che non, e non ormai sei stato condannato su questo, non sei stato condannato io su questo. Io sono stato condannato per avere risposto ad una domanda di Giuseppe Cruciani. Ma adesso la facciamo sentire, un attimo solo, Carlo, la facciamo sentire, un attimo. Sei ancora a casa, Evo? Taormina, i gay e gli avvocati, sentiamo. Intanto io per esempio nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo tale che questo non accada. Cioè, non ho capito, lei se uno è omosessuale non lo assume nel suo studio? Ah, sicuramente no. Sicuramente ma no. Professore, ma questa ma è discriminazione questa roba, no, qua. No, beh, sarà discriminazione, a me non me ne frega niente. Perché volevo prendere? Faccia l'avvocato, se è così bravo e così diciamo così capace di poter fare l'avvocato, si apre un bello studio per conto suo e si fa la professione come meglio crede. Mi turberebbe l'ambiente, sarebbe una situazione veramente di grande difficoltà. Ma sì, ma guardi, ma no, ma proprio hanno un'altra mentalità, altri stili, e parlano diversamente, si vestono diversamente, si muovono diversamente. È una cosa assolutamente insopportabile. Guardi. È il contro natura. Professore, leggero lei non c'è andato. Beh, ma io dico che la prossima volta che mi capita una situazione di questo genere, a parte che non mi potrebbe mai capitare perché un avvocato non è mai un dipendente di uno studio, certo, ma nel caso è un collaboratore, quindi già, sì, per questo avere detto che ci sarebbe un problema di rapporto di lavoro è sbagliato, perché si tratta di un'altra cosa. Quindi prenderò le mie decisioni senza dire perché le ho prese, e così saranno tutti santi e benedetti e saranno d'accordo. Allora, ma lei come fa a sapere? Come farà a sapere che è gay, scusi, quello che si voglio presenta? Dire, Vabbè, vede, purtroppo ho il bavaglio, fino a quando ma non sarai eliminata. Ma no, ma che bavaglio, quale bavaglio, ma si liberi dal bavaglio, professore. Fino a quando non sarai eliminata questa sentenza io non potrò più parlare. Beh, io c'è una legge, una cosa. Adesso una c'è, ma non è, no, la legge non è una legge, perché la legge fa riferimento, come ha detto prima Giuseppe Cruciani, fa riferimento a comportamenti discriminatori, non alla manifestazione. Allora certo, quando, certo, quando ci dovesse essere la legge sull'omofobia e io dicessi non la condivido, anche lei, quella sarebbe discriminazione. Voglio dire, stiamo parlando in questi giorni del problema delle coppie gay e dei bambini, sì, che in un modo o nell'altro riescono ad affibbiarsi ciascuno di queste coppie, maschili o femminili che siano. Allora, beh, una cosa bella è successa, no? È successa una cosa bella. Non me ne frega se è bello o se non è bello, dico questo. L'Islam è contrario, la Chiesa Cattolica è contraria. Che sono tutti discriminatori questi, no, ma... così come lo sono io? Ma oppure, dipende come, lo, ma dipende come lo dici, scusami, ma lo sai dici? Meglio di me. Ma dipende come lo dico. Vabbè, ma scusi, l'immagine, professore, contrario. Professore, scusa, l'immagine... Scusa, David, scusa, dipende da come lo dico, se lo dico ad una persona. Ma se io dico che in generale... Hai usato dei toni che sono stati ritenuti inaccettabili, contrari e tutte... I toni non possono essere discriminatori. Quello che è discriminatorio è il comportamento. Di una più... Io innanzitutto sto in uno studio privato e non sto in una pubblica amministrazione. E quindi nel mio studio entra chi voglio... Farai ricorso e ti auguro con questi voglio argomenti di essere assolto. Come? No, farai no, ricorso, ma io non voglio, ma io guarda, e ti non auguro con questi no, argomenti vorrei, di essere no, assolto. Io ti vorrei dire, siccome ti conosco come persona intelligente, innanzitutto mi auguro che tu abbia letto la legge prima di partecipare a questa trasmissione, non oggi ma anche prima, perché se tu avessi letto la legge e avessi individuato il contenuto di quella legge, che parla di comportamenti direttamente discriminatori. Vabbè, ma infatti in secondo me tu hai, professore, secondo me lei ha perfettamente ragione. Dopodiché... Poi si tratterà di capire quello che farei laddove mi trovassi nel contesto concreto, ma non lo dico, perché sennò la Lega, questa presunta Lega che tutela gli interessi dell'omosessualità in Italia, tornerebbe alla carica. Vabbè, ma professore, bisogna andare all'attacco questo. Però, bisogna voglio andare dire, all'attacco. Ma certo che vado all'attacco, ma non si preoccupi che vado all'attacco. Però voglio dire, se invece dell'attacco qualcuno fosse disposto a mettersi un po' la testa e a ragionarci sopra, per rendersi conto che una cosa è che uno viene dentro il mio studio e gli dico vattene perché sei un omosessuale, un'altra cosa è dire io contro l'omosessualità mi pongo in una certa ma questo ottica, d'accordo, e lo dico. Questo, ma allora questo giudice perché cosa ha fatto, una sentenza politica questo giudice? No, la sentenza che riguarda Carlo Taormina e basta. Basti dire che in una procedura nella quale non si spende una lira, perché è tutto lì, è tutto a carta libera, senza tasse, senza niente, mi hanno condannato a 5.000 euro di spese. Lei pensi che cioè 10.000 euro di danni e 5.000 di spese? Esatto, però esatto. Parenzo, tu devi avere il coraggio di dire quello che hai detto ieri, perché devi avere il coraggio di dirlo quello che hai detto ieri davanti a Taormina. Tu hai detto la condanna è giusta, non solo la condanna è giusta, ci dovrebbe essere una condanna maggiore per Taormina. Quale sarebbe? No, maggiore non ho detto. Sì, maggiore no, non più detto. Più no. No, dillo. No, perché non è, perché evidentemente i giudici hanno applicato la legge. Maggiore, no, perché non posso aver detto. Ma quale maggiore hanno applicato? Ma scusa, ma se hanno applicato la legge, se c'è una legge la quale ho che detto che fossi, fino a quando le sentenze se non sono fossi omosessuale, mi sarei sentito anch'io offeso dalle parole ma di Taormina. Ma perché? Perché mi sarei sentito offeso? E c'è una legge che tutela questo. In questa legge, per esempio, non si parla dei neri e non si parla dei bianchi. Non si parla dei cinesi, non si parla dei giapponesi. C'è la legge Mancino, Taormina, per quello. C'è la legge Mancino, per cui se si offende. La legge Mancino è un'altra cosa. Vabbè, ragazzi, non facciamo discussioni giuridiche. Non facciamo discussioni giuridiche. La legge Mancino è quando ci sono dei comportamenti organizzati contro. Ma non sono organizzati, c'è l'incitamento all'odio. Scusa un attimo, Carlo, io adesso. L'incitamento all'odio, che cos'è l'incitamento all'odio? Vabbè, ragazzi, però non andiamo su discussioni giuridiche, non ce ne frega niente. Dai, la questione è se non ci sono già i tribunali per questo. Io difendo, caro Taormina, su questa cosa qua, pur non pensandola come lui, perché non credo che abbia messo in come dire, non abbia fatto atteggiamenti discriminatori. Ha detto una frase sul fatto che non assumerebbe un omosessuale, sono affari suoi, però fino adesso il caso concreto non c'è stato, non è che c'è uno che ha denunciato Taormina. Nella legge mica distingue per esempio tra chi vuole assumere uomini soltanto o donne soltanto. Quante imprese private assumono solo uomini perché le donne si mettono incinta e rompono le scatole con le varie cose eccetera. Perché? rompono le scatole, scusa? No, voglio dire, a questi imprenditori rompono le scatole perché non li vogliono, perché se no, comunque la pena pecuniaria, la pena pecuniaria non ha alcun senso. La pena pecuniaria non ha alcun senso. Non è una pena pecuniaria, scusa. No, la pena di pagare 10.000 euro, vabbè, le pagherai con tutto quello che guadagni. No, le pagherai solo 24 ore, vabbè. No, ma che c'entra? Ma quale sono 24 ore? Ma quando vai? Sì, sarebbe stato più bello invece, sarebbe stato più bello che il giudice invece, sarebbe stato più bello che invece, come dire, disponesse una pena esemplare. E qual è? Cioè obbligasse il professore, avvocato, ad assumere nel suo studio un avvocato dichiaratamente omosessuale. E anche a trattarlo benissimo. E anche a lustrargli le scarpe la mattina, quando lui arriva. Lui arriva, l'avvocato omosessuale dice: Tarmina, pulisci le scarpe per cortesia. Questa è stata la pena giusta. Fermati lì. Poteva dirla una cosa di questo genere? Ovviamente no, è un paradosso. Allora, ovviamente no. Ovviamente no. Ma sarebbe stato bellissimo, come i lavori socialmente utili, che ti avessero, che ti obbligassero a assumere. Ma è una provocazione, avvocato, è una provocazione. Ma è chiaramente una provocazione, come i lavori socialmente utili, no? Però è una provocazione che porta al limite. Come i lavori socialmente utili. Come quello a cui, come quelli a cui danno i lavori socialmente utili. Sarebbe stato bellissimo che ti obbligassero a assumere in studio un bravissimo avvocato, ma bravissimo, uno dei migliori, ma dichiaratamente omosessuale, che magari si presenta anche con tutto truccato. E io che dovevo fare? Che non essere... E lui si faceva pulire le scarpe da te, diciamo, avvocato? Dobbiamo fare l'assunzione obbligatoria, fammi capire. Ma no, ma è la provocazione. Lavori socialmente utili. Ma scherzare. Cioè ti avrebbe fatto molto più male questo che non 10.000 euro. La pena sarebbe stata più intelligente, capito? A casa mia non posso prendere chi mi pare, ma fammi capire, me lo vuoi dire? Mi vuoi dare la risposta a questa domanda? Legge a casa con... mia posso, ma prendere, certo, chi ma mi è pare? Chiaro sì che non sarebbe no stata una pena possibile. Ha ragione, a casa no, sua quello prende chi vuole. Lascia perdere la provocazione, ma io posso prendere chi mi pare a casa mia, sì o no? Legge del contrappasso dantesca ci voleva, assunzione obbligatoria di avvocato gay. Ma vuoi rispondere alla domanda? Ma è ovvio che è ovvio che a casa tua puoi prendere chi ti pare, allora puoi anche, è evidente che puoi prendere chi ti pare. L'ho usato come strumento di paradosso, perché è chiaro che quei 10.000 euro per te non sono una mancia. Posso prendere chi mi pare, posso anche dirlo che voglio prendere chi mi pare o non lo posso dire? No, lo può dire, lo può dire, lo può dire. Lo puoi dire, ma non hai detto solo questo. Sì, ha detto, ma per questo è stato condannato. Per questo dobbiamo anche considerare il contesto, non dico ludico, perché fate delle cose molto serie, però bisogna anche prendere il contesto nel quale certe cose vengono dette. Vabbè, adesso voglio dare il numero di IBAN di questa associazione. Paghiamo al posto di Taormina. Ma non c'è bisogno. Vabbè, tu no, io sì. Allora, IBAN è, poi lo pubblicheremo, IT94. Prendete nota, IT, poi lo pubblicheremo, 94 V03 1650 16 00 00 01 14. Beh, nessuno avrà scritto, lo pubblichiamo, dai ragazzi, inutile adesso, l'IBAN non si può dire. Ma un euro ciascuno di noi, non ci sarà nessuno che darà, ma nessuno darà un euro di IBAN, bastano 10.000 sottotitoli della zanzara, ma nessuno per dai. Ma non ci sarà, oltre al tuo euro, ma scusa, che immagine, che quando vedi l'immagine, nessuno, l'immagine di Toscani di un bambino con due donne o due uomini insieme, che effetto ti fa, Carlo? Parli della fotografia di Toscani? Sì, sì. A me fa un pessimo effetto, che ti devo dire. Io sono contrario, lo posso dire? Sono contrario a tutte all'adozione, queste cose, all'adozione. Insieme all'Islam e insieme al mondo cattolico. Vabbè, l'Islam non c'è da vantarsi, diciamo, non c'è da vantarsi. Lo sto dicendo provocatoriamente, io sono un anti-Islam per eccellenza, come tutti quanti sanno. Io ti dico che l'Islam e i cattolici sono sulla stessa strada, è stato scritto sull'Osservatore Romano, è stato scritto sull'Avvenire, contro le coppie gay che hanno figli, come quelli che risulta dal cartello di Oliviero Toscani. A questi nessuno li mette in galera, non ho capito. Ma chi in galera? Chi deve mettere in galera? E nessuno li condanna a 10.000 euro, fammi capire. Ma capito, questi devono andare in galera, secondo te, non ho capito. No, ma secondo me dobbiamo tutti essere liberi, altro che storie. Ma uno che vuole adottare una coppia gay, che vuole adottare un bambino, che cosa sono? Cosa sono? E vorrei che fossero liberi anche quelli che giustamente dal loro punto di vista perseguono l'obiettivo della liberalizzazione del sono fatti loro, però diciamo la verità, tu questi qua, come quelli che vogliono adottare un bambino gay, come li giudichi? Dei porci, dei maiali, come li giudichi? No. Giudico delle persone che scelgono delle strade innaturali. Contro natura, vabbè, contro natura. No, strade innaturali. Sì, vabbè, adesso sei diventato moderato. Sei diventato moderato. Vedi che è servita quella condanna? Vedi che è servita, per fortuna, quella condanna? Anche Taormina è servita, perché usi termini civili per esprimere la tua opinione. Vedi che è servita? Vedi che è servita? Bravi giudici! È servita la condanna, obiettivo raggiunto. Non usi più quel frasario odioso nei confronti degli omosessuali. Ho detto esattamente le cose che ho detto l'altra volta. No. E domando a te, se tu fossi condannato per diffamazione nei confronti di una persona alla quale hai detto stronzo, scusami, tu gli dici stronzo? Non glielo dici, gli dirai testa di cazzo, ma non gli dirai più stronzo. Magari sto più attento. Va bene, ciao professore, ciao. Ciao, ciao. Monellacci. Eccoci qui, Giovanni da Milano. Giovanni. Buonasera Cruciani. Ciao, dimmi, caro. Dimmi. Ciao. Guarda, io so che sei persona intelligente, volevo rammaricarmi con te, pacatamente, quindi so che odierai il tono di questa telefonata perché a te la pacatezza piace poco, però ma chi vuole, non ho detto tu puoi parlare come vuoi, però... non è che devi urlare per forza. però intanto dimostri intelligenza, perché te sicuramente a monitor sai qual è l'argomento della mia telefonata. Ho però... una linea, sì, c'è scritto livello bassissimo della trasmissione. Mi dispiace. Perché io 3-4 anni fa, tornando a casa dalla trasmissione, ascoltavo tutte le sere di una bellezza esagerata. Vabbè, adesso ti piace di meno, ma succede nella vita, ti piace di più. Ma non è perché mi piace di meno, è perché è diventata una roba. Cioè, no, voi date modo di parlare ad individui. Ma non diamo modo, le persone chiamano, non ci sono filtri qui. Hai ragione, non ci sono filtri. Ma nel momento in cui uno bestemmia in diretta, io. Ma ho capito, ma Parenzo, per me ha parlato Parenzo. Quando parla Parenzo, io non devo mettere per forza il carico. Ha detto, è come se avessi parlato. È come se avessi parlato io. Ha detto quello che pensa. In questa trasmissione non si deve bestemmiare. Punto e basta. Molto semplice. Non è che ci voleva Parenzo a dire. Cioè, voglio dire, l'ha detto, va benissimo. L'ha detto Parenzo. È come se l'avessi detto io. Cosa devo aggiungere a quello che ha detto lui? Cosa devo aggiungere? Ho capito, però capisci, cioè voi quel personaggio lì, quell'individuo lì, telefona una volta al mese, una volta ogni due settimane, lo conoscete, capisci? Cioè se voi date voce a questa, poi tutti hanno diritto di parlare, tutti hanno diritto di dire cose, io lo dico una volta, dico due volte, dico tre volte, le altre volte lui insultava, le altre volte insultava, faceva quello che faceva, eccetera, però non era mai arrivato a dire quello che ha detto oggi. Punto e basta. Appena l'ha detto, Parenzo, era come se parlassi anch'io, ha risposto, ha reagito, punto e basta. Di che dobbiamo parlare più? Ma non c'è niente di cui. Condivido in pieno quello che ha detto Parenzo prima. Condivido in pieno. In questa trasmissione non si devono pronunciare bestemmie. Si possono dire tante cose molto scorrette, anche parolacce, eccetera, eccetera. Perfetto. C'è un limite, chiaramente. Il limite è anche questo. Ce ne sono altri. Il limite è anche questo, punto. Ma non c'era bisogno di aggiungerlo. L'aveva già detto Parenzo. Cioè, che cosa devo dire in più? Ma non ce l'ho con te perché non hai aggiunto niente o non volevo fare complimenti a Parenzo perché. Ma no, ma non è questione di complimenti. Sto dicendo che. Però voglio dire, ripeto, se un individuo così chiama in trasmissione una volta ogni settimana, voi più o meno che ma non è una volta ogni due settimane, una volta ogni 20 giorni, un mese, dai, su, poi questo cambia i telefoni, c'ha 7-8 telefoni, dai. Ho capito, ma si presenta, si sa chi è, no? Ho capito. Sì, vabbè, ho capito, ma voglio dire, è uno che chiama, che combatte con Parenzo, spesso su esagera nei toni, oggi molto. Ha superato il limite, punto. Vabbè, comunque resta il fatto dell'intelligenza che mostrate nel richiamare le persone che... Grazie, ciao caro, ciao. Vincenzo, ciao, Pisa, ciao. Anzi, Pierluigi da Bergamo prima, Pier Giulio. Abbassa la radio, dai, Pier Giù. Abbassata. Vai, dimmi. Cruciani, ascolta. Ma che è un altro Mauro questo? Io mi sono fatto un'altra parentesi prima. Cioè? Perché sentendo tutto il bailame, ieri sera Lussuria. No, l'altro Cruciani, ieri comunque. Poi l'altro ieri, ok. Che è scandalizzata perché fa vedere le foto demagriti, quasi tossici, giusto? Sì. Sembravano quasi tossici. Cioè, e che ti aspetti tu? Cioè in che senso che ti aspetti? No, che ti aspetti nel senso della tossicità di quello che non è la, nel naturale. Ah, allora, lei dice, Pier Giulio? Sì, sì. No, lo sto dicendo Giulio, perché sì, voglio capire, perché ho già allertato dei signori. No, ho già allertato dei signori, delle persone per raggiungerla lì a Bergamo. Ma lei dice che necessariamente, essendo persone che fanno degli atti contro natura, che sono contro natura, dunque sono tossici in sostanza. No, non sono tossici. E che sono? Allora Dio ha detto che ognuno può essere libero nella vita, sì, di scegliere una via. Però dice, scegli questa via e sì, ti capiterà questo. Sì. E a me mi dispiace, stasera io ho sentito grandissimo, io ammiro moltissimo, ma credimi, Cuzzani, anche chi? Io. Sgarbi, sì, anche l'avvocato Saormino, una persona bellissima. E anche Mauro da Mantova. Ma no, quello no. Allora ti spiego. Io sarei ipocrita, credimi. Sì. Ipocrita nel dire che io sono esente da peccato, perché io sono un peccatore anch'io, come tutti. Cioè, vabbè, allora? Forse sto svolgendo una fraseologia che è un po'. No, però Pier Giulio, andiamo al concreto. Tu pensi andiamo al concreto. Che questi qua siano contro natura? No, allora, prima di tutto io penso che il Signore di prima ha sbagliato, perché io mi pento davanti al Signore, davanti a Gesù. Pentiti. No, certo che mi pento. Confessati. Certo che mi confesso. Confessati qui, davanti al Signore, confessati qui. Ma per l'amor di Dio. Confessati qui, quali peccati hai commesso? Ma qualsiasi, ma come tutti. Recentemente che peccati hai commesso? Che atti impuri hai fatto? Ma il mio peccato è con me stesso, solo nel pensiero. Ti sei masturbato troppo? Che hai fatto? Ma neanche, ma perché vinco anche quello. Cioè, in che senso? Cioè, nel senso che potrei vincere anche quello, però è una sofferenza, no? Perché? Cioè, io vengo davanti alla croce del Signore. Cioè, allora, scusami un attimo, Cruciani e Parenzo. No, sì, ma io non ho capito non ci siamo, non ma io ci non siamo. Ho capito niente, però. Allora, scusa, Pier Giulio, perché sei intervenuta la zanzara stasera? Ma mi sono intervenuto perché sono scandalizzato. Ma da che cosa? Cioè, ma scandalizzato non voglio fare l'ipocrita. Voglio da essere che? Sincero. Da che? Da che di quello che tutto quello che di tutto quello ma che da si che dice. Cosa? Ma da quello che si dice chi però? Chi? Cioè ci deve essere un ma soggetto. Ma quello che si dice perché? Ma scusami un attimo adesso, Cruciani. Ma questo adesso è matto, ragazzi. No, non sono matto. Dimmi una, da che cos'è che sei scandalizzato, Pier Giulio? Ma poi allora, perché si deve chiamare Pier Giulio? Chiaramente parlando, io ti potrei fare una domanda. Tu sei cristiano? Sì, sono cristiano perché sono battezzato. Sì. Lo potrebbe dire anche. Vabbè, d'accordo, però anche, adesso non. Anche no, vabbè, lo potrebbe dire anche Parenzo e dice: e cacchio. No, ma io non sono battezzato. Vabbè, però amico mio, Pier Giulio, capisco il problema. Cosa vuoi dalla zanzara, Pier Giulio? Ma Pier Giulio vuole dalla zanzara che le cose siano chiare. Non lo vuole Pier Giulio. Cioè, ma cosa le cose siano chiare? Cioè, che i bambini devono stare con un uomo e con una donna, questo è il punto. Ma ha detto giusto anche Sgarbi prima. Che ha detto prima? Lo senti. Ma ascolta, io Sgarbi lo ammiro molto. Vabbè, questa l'abbiamo capito, l'hai già ripetuto 40 volte. Allora? No, ma ha detto che le cose devono essere giuste, nel senso. Devono essere giuste. Devono essere giuste. Cioè, ci deve essere una cosa. Non puoi andare contro la natura in tutto. Ecco. Cioè, ieri sera ti faccio un esempio. Ma lei, allora, adesso scusa, ci stiamo facendo delle masturbazioni del fatto. No, però scusa, Pier Giulio, tu sei sposato? Certo. Hai tradito tua moglie qualche volta? Sì. Ne ho sofferto una volta, sì. Ne ho sofferto. Peccatore, molto. Peccatore, peccatore. Certo peccatore. Contro natura, ma contro natura. No, non sono contro natura. Beh, sì, come? Cruciani, no? Perché lo dici? Non sì, è vero. Ma quante volte hai peccato? Allora, quante volte hai peccato? Hai chiesto perdono a Dio? Hai chiesto perdono al nostro Signore? Vai, se non lo faccio, vado davanti alla croce del Signore. L'hai detto a tua moglie? Hai confessato davanti a tua moglie? Davanti a mia moglie, certo che l'ho confessato. E come ha reagito lei? Come è finita? Ha reagito molto male. Cioè? Ha reagito molto male. E ti dirò la verità, non per ipocrisia. Sì. Ho avuto anche dei bei problemini. E ancora tutt'oggi. Non ti ha perdonato, Bravo. Non ti ha perdonato. Perché non rientra nel contesto. Ma perché l'hai fatto allora? Perché l'hai fatto? Perché l'hai fatto male? Perché l'hai fatto? E ha avuto una debolezza. Ma con chi? Con una mignotta? Con una. Ascolta, allora nessuno. Ma con è giusto. Chi allora l'hai fatto? La parola di Dio dice, giusto, io prendo Apocalisse te lo dice chiaramente. Adesso lasci stare l'Apocalisse però. Con chi l'hai fatto, Pier Giulio? Con chi l'hai fatto? Con chi l'hai fatto? Con chi hai commesso questo peccato? Con con una donna, secondo te che lo farei con? No, per una donna, con una donna, vabbè, ma anche con un uomo poteva anche. Però io volevo dire una cosa. No, no, vabbè, poteva essere anche quello, eh. No, giusto, però scusa Pier Giulio, io vorrei capire una cosa. Fammi capire questa cosa qua, Pier Giulio. Questo perché l'hai fatto? Perché hai tradito tua moglie, dato che tu hai dici di avere dei principi morali così forti? Ma sai perché? Cos'è il combattimento più grosso è nello spirito, no? Sì. Visto considerato che anche tu ti farai il segno della croce, padre, no, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, cioè ritieni anche tu che sei fatto di tre entità, non sei solo corporale. Cioè, per cui hai un'anima, hai uno spirito, giusto? E avendo questo, di conseguenza dici, cazzo, allora quando muoio... Vabbè Giancarlo, facciamo una cosa così, siccome siccome a tua moglie, perché ci avevo scritto un altro Giancarlo, siccome a tua moglie ancora non è passata, allora facciamo una cosa qui in diretta. No, è passata. Però digli, chiedigli ancora, sei a casa o chiedigli sei ancora una, sei a casa adesso o no? Dove sei? No, io... Passami tua moglie un attimo, No, non c'è mia moglie. Allora, chiedigli di nuovo scusa, qui alla Zanzara. Come si chiama tua moglie? Luisa. Chiedigli di nuovo umilmente scusa. Anche il posto... No, no, perché io abito in Val di Magna, ti dico dove sì, abito. Sì, ma chiedigli umilmente scusa un'altra volta, qui davanti al grande popolo... Sì. Ma il Signore mi ha insegnato a chiedere scusa a tutti. Vai, allora dillo, come si chiama? Ma sai la cosa più bella? Sono rientrato dal lavoro adesso, mi sono riappacificato sul lavoro con chi mi ha fatto del male gratuitamente. Vabbè, ma che se non ce ne frega niente. Ti hai ripreso in casa la moglie o no? Non ho capito. No, però mi devi dare... Ma se te ti fanno del male gratuitamente... Vabbè, ma d'accordo, però se non ce ne frega niente. Pure che tu chiedi perdono. Pier Giulio, chiedi perdono di nuovo a tua moglie. Volentieri, grazie. Vai, chiedi. Lo faccio con nome, eh? Vai. Va bene, lo faccio molto volentieri. Vai. Però anche l'usuria ieri sera. No, ma dai, fallo, chiama la tua moglie. L'altra sera quando sei scandalizzato davanti di Toscani. Toscani ha fatto le cose giuste. Va bene, Pier Giulio, mi vuoi dire come si chiama tua moglie? Maria Luisa. Ma allora, diglielo, Maria Luisa, ti chiedo umilmente scusa, dillo, ti prego. Ma gliel'ho chiesto 10.000 volte. Vai, e diglielo anche adesso qui alla Zanzara, diglielo. Ma sì. Indubbiamente, poi io no, indubbiamente, dillo. Ascolta Cruciani, parliamoci chiaro. Carnalmente, che hai fatto carnalmente? No, carnalmente vivi anche nella carne, non è che sei esente. Ah, la carne è debole, dici, no? Bravo. Va bene, Pier Giulio, ti ringrazio. Ciao. Simpaticissimo. Ciao. Chi va contro le leggi di Dio va all'inferno dritto. Cioè, tu ti rendi conto, questo si è fatto una trombata, questo Pier Giulio, no? E ancora sta chiedendo scusa alla moglie. Ancora sta chiedendo scusa alla moglie dopo tanti anni. Dai, su, ma in che mondo siamo? Dai. Vabbè, si vede che vuole stare con la moglie. Cioè. Dai, Adrian, Roma. Taormina tutta la vita. Taormina tutta la vita in che senso? Nel senso che io ti pongo una domanda. Sì. Se nella reazione io faccio il camionista, no? Sì, nella ma che sei, romeno? Che sei, romeno? Sono romeno. Allora? Abito a Roma. Se nella reazione di sosta, alle 2 di notte, sì, mi sveglia un gay. Con il pretesto che c'hai da scendere. Io dico, non ce l'ho. Magari quello dice che vuoi fare sesso con me o si propone per queste cose qua, no? Se io riesco a filmarlo, sì, e lo porto davanti al giudice. E perché devi portarlo? Ma perché lo devi portare? È una violazione della privacy. Ma quale violazione della privacy? Ma lo fa pagare 10.000 euro con una Taormina? Non credo proprio. No. Se lo rifiuto, sono accusato di omofobia. Perché non voglio fare sesso con lui, sono omofobo. Ma quante volte ti è successo, scusa, nelle piazzole? Succede spesso. Cioè, succede spesso che tu sei in una piazzola, e che succede poi? Succede che, te fermi, magari te ci metti a riposare, dopo qualche ora riesci a addormentarti, il tempo quello che c'hai, 8-9 ore a disposizione da riposarti, e appena ti addormenti qualcuno ti bussa alla porta. Che c'è da scendere alle 2 di notte? Ma se lo mando da qualche parte sono accusato di omofobia. Ma quando mai? Dai, su. No, però lo disse, se io a sto punto riesco a filmarlo, lui mi fa delle proposte indecenti. niente. Ma che proposti ti hanno fatto? Scusa, Adrian. Cioè, tipo, se cioè, vuoi la compagnia, vuoi fare sesso con me, vuoi, cioè, a sto punto è giusto che paga pure lui 10.000 euro come taormina, no? Vabbè, Adrian, ti saluto, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Occhio che stiamo degenerando, Io dico solo che questo programma dovrebbe essere soppresso. Amici tassisti, cari amici tassisti, io non so se la conoscete, quelli di Milano forse sì, ma tassisti di tutta Italia. Qui abbiamo una signora, una donna, caro Parenzo, ma che ha in studio? Quasi 50 anni, no purtroppo no, non è in studio, ma che fa la tassista, ma fa anche un altro mestiere. Un mestiere che noi qui alla Zanzara conosciamo bene, caro Parenzo, che non discriminiamo. La, scusa? La bibliofila fa? Cioè, tu dici sta nelle biblioteche. Beh, no, non solo, cioè, bibliofila. Esperta di libri antichi. Esatto. No, no, no, no, no. Devo dirti di no. La gallerista d'arte. Non fa la gallerista. Ma perché? No. Non ho capito. Tu pensi che queste professioni qui siano più nobili di altre professioni? No, o di quello che fa questa signora? Non lo so ancora cosa fa questa signora, quindi non posso sapere. No, non fa la cosa. Terza possibilità, ne hai tre di possibilità. Hai detto bibliofila e gallerista d'arte. La terza possibilità qual è? Collezionista? Collezionista di che, sì, quadri? Di qualcosa, sì, forse. Di quadri? Di quadri, quadri no, perché inventati un'altra un cosa. Un amante di Miró? No, no, no. Fa la pornoattrice. La pornoattrice. Ecco, cioè, ecco. Vuole diventare una pornostar. Questa è la tassista per ora, però. Ma non si è capito bene questa, qua, questa cosa. Questa la chiariamo. Ma tu l'hai conosciuta, immagino, prendendo il taxi, ovviamente. No, l'ho conosciuta perché ho letto di lei da qualche parte. Poi l'abbiamo chiamata attraverso la sua casa di produzione dei film porno che fa, che si chiama 100%. Si chiama Morena. Si chiama Morena. Buonasera, buonasera. Ciao, come stai? Come stai? Mi fate ridere, siete troppo simpatici. Senti, scusate, innanzitutto posso darti del tu, se ci diamo del tu. Quanti anni certo. hai? Quanti anni hai, cara Morena? Io ne ho fatti 50. Ah, 50 anni, 50 sì, anni. Ma sì. Allora, capito, come ti, il tuo nome d'arte qual è? Morena. Morena cioè, taxi 69, Morena. Però Morena. Ma è un caso, taxi 69, non ho capito. Non è un caso. Sì. No. Ma la compagnia qual è? La compagnia? Perché alcuni ci hanno scritto dicendo questa qua non fa la tassista, non è vero. No, cioè, esiste il 6969. Ah, ma se lo dicono loro. No, dai, fai la tassista o no, amore, dai, su. Ognuno può scrivere quello che vuole. No, d'accordo, però ma fai davvero la tassista? La tassista e faccio tanto l'amore. E fai tanto l'amore. Beh, questo le due cose non sono le due cose, quello d'accordo. Quello benissimo. Ma io non ho capito, ma la compagnia in cui lavori qual è? La compagnia di taxi? Ah, non lo posso dire. Ma come non lo puoi dire? Io lavoro per il 6969. Ah, per il 6969, ed è il taxi certo. 69. Ma esiste il 6969 a Milano? Come tra no, certo, mi sembra, che no? Esiste. 026969, certo. 026969. È una delle compagnie che esiste, certo che esiste. 026969, vabbè. Come 3570 Ma allora, tassisti del 6969, avete mai visto sta Morena? Immagino sì, ci sono pure le foto, dunque non è una cosa falsa, finta. Io comunque quando lavoro non è che mi faccio mi trucco, no, mi certo. metto i tacchi o no. Io sono molto riservata. Hai chiamato però il taxi non... 69, cioè non è che proprio una cosa non così. È che l'ha chiamato, è la compagnia che no, la compagnia è 6969, la compagnia è 6969. Vabbè, io non ho capito una cosa, come si fa tra l'altro, scusa, come i tassisti possono consentire, per me sì, io sono la persona più liberale e più aperta, ma non c'è qualcuno non c'è qualcuno arrabbiato che dice i tassisti accostati a una pornostar? Non lo so, guarda, sinceramente non lo so, è una cosa che non mi interessa. Io faccio il mio lavoro, ho finito il mio lavoro, sì. Ho questa grande passione perché sono sempre stata così nella mia sì. vita fin da, cioè, fin da ragazzina. Cioè, ti piace fare sesso? Certo, assolutamente sì, assolutamente. Cioè, sì. Quando è che l'hai fatto la prima volta, scusami? Io avevo 13 anni. A 13 anni, molto precoce sei, a 13 anni. Molto precoce. A 13 anni. Però tu... però ero signorina, ma dimostravo già. Dimostravi molto di più. Molto ecco, vedi che scende dal taxi. Ho visto la foto adesso. Sì, effettivamente è vero. Scende dal taxi. Che c'entra scende dal taxi? No, sto leggendo l'articolo di Tiziana La Pelosa per Libero. Su Libero, sì, certo. Scende dal taxi. Che fa? Ma niente, c'è la foto sulla taxi. La signora che è in questo momento con noi. Molto formosa, molto formosa. Quanto porta? Dice, ma c'è il seno rifatto? Hai il seno rifatto? No. Morena, dai, ti sei rifatta le tette, dai, su, te le sei rifatte. Mi sono rifatta tutta, guarda. Ti sei rifatta tutta? Tutta rifatta, dal mignolo del piede. Ma veramente? Ai capelli. Sì. Io ero un uomo prima, adesso sono diventata donna. No, ma qualcosa ti sei rifatta, dai. Qualcosa ti sei rifatta. No. Niente. Non mi sono rifatta nulla. Non ti sei rifatta nulla. Fai sesso da 13 anni, quando è che ti è venuta la cosa di farti vedere, di fare un film, eccetera? Quando è che ti è venuta questa idea? Ti sei messa con un porno star, hai conosciuto questo ambiente, andavi nei privé, facevi porcherie, che facevi? No, porcherie no. Ma in senso buono, in senso buono. Queste sono cose talmente belle. Sono bellissime, devo dire la verità, sono d'accordo con te, sono cose meravigliose. E quando è che l'hai deciso di fare la porno star? Ma no, sono cose che sono capitate per caso. Cioè, ti hanno... Beh, non è che capita per caso, scusa, Parenzo, a te capita per caso di fare il porno star, a parte che... Però non mi è capitato, però voglio dire, capisco il talento della signora che a un certo punto è uscito fuori e lo ha voluto mettere in pratica, insomma. Ma ho capito, com'è capitato? Dai, su, Morena, raccontaci com'è capitato. Sei andato, eri in un privé, eri in un luogo di scambismo. Ma perché deve venire fuori per forza così? Non ho capito. No, ma perché così? Ma tu hai dei pregiudizi, ma sono cose che fa un sacco di gente. Ma ho capito, ma magari non gli è venuto mangiando una pizza e si è accorta che... Quando ti è venuta l'idea, Morena? No, io sono, come ti dicevo, sono sempre stata una donna e lo sono tuttora, molto, molto, molto aperta di mente. Molto aperta, sì, si dice sempre così. Mettetelo come volete. Ti piace, insomma, dai, ti piace quello che ti piace, dai. A me piace. Ti piace, molto. Donne, uomini, tutti, no? Sì. Sì, non hai cose. No, no, perché no, ovvio sei perfettamente bisessuale, sei perfettamente le persone mi devono piacere perché no, però è interessante in questa intervista che stiamo facendo in relazione al suo lavoro di tassista. Cioè, signora Morena, volevo chiedere proprio questo. Le è mai capitato magari lungo un tragitto, non so, sale un signore? Ma questa è una domanda che no, non si sale che un signore la riconosce, che dice, no, perché non è famosa. No, che la riconosce. No, ma che tutt'altro. Mica Rocco sale Siffredi. Un signore, dice io sono in Viale Monterosa, Cruciani. No, sale sul taxi un Cruciani. Viale Monterosa mi porti a San Babila. Sì. E lungo il tracciato, lungo il percorso, no? Sì. Ma il tassametro intanto va avanti. E intanto c'è un approccio lungo, cioè le è mai capitato di fare magari del sesso uno dovrebbe provarci? Ma perché uno dovrebbe provarci sul taxi? È un lavoro serio, che ce lo viene a raccontare noi se ha fatto sesso in taxi, cioè abbi pazienza. Cioè, sì, ho fatto sesso in un taxi con un cliente. Questo poteva essere No, ma perché questa cosa qui in realtà però le piacerebbe fare una scena di un film in un taxi? No. Ma sì, dai. No. Sinceramente no, non lo so, non ci penso. Io faccio le cose come vanno, viva la giornata, va bene così. No, non ci penso, sono sincera. Non ci pensa, vabbè. Comunque, la specialità nei suoi film porno qual è la sua specialità? Adesso me la devi dire. Ma non ha specialità. Sì, ma ogni attrice porno ha una sua specialità, cioè. Ma io non mi definisco un'attrice porno, non sono famosa, sono una persona semplice, molto modesta. Faccio pornografia perché mi piace. Ecco, sfatiamo anche questa cosa. Sfatiamo anche questa cosa qua. Sì. Allora, io faccio pornografia, cioè ho iniziato a fare la pornostar non perché voglio guadagnare un sacco di soldi. Quanto ho guadagnato fino adesso? Assolutamente. Quanti soldi ho guadagnato fino adesso? Ma non guadagni soldi, cioè devi essere molto famoso. Io non lo sono e non mi interessa. Fino adesso quanti soldi ha fatto? 10.000, 20.000, 30.000? Più o meno. Assolutamente no. Vabbè, zero. Qualcosa avrà guadagnato, no, da questi film che ha fatto. Qualche titolo ci sono, per esempio, che mi dica un titolo di un film che ha fatto. Ma i titoli con la 100% non ci sono. La 100%, perché sono tutti amatoriali, sì. Sono amatoriali, quindi sono così. Cioè, lei lo fa perché le piace fare sesso. Esatto, quindi la pornografia mi butta, diciamo, il mio film, le mie performance, chiamiamole così, a farle vedere a tante persone, ma a me fa piacere perché magari ci sono coppie che non lo so. Ma lei fa piacere, a lei piace farsi vedere, diciamo la verità. L'esibizionismo, sì, le piace. Ma non lo faccio per una cosa. Adesso non mi dica che lo faccia per così, per generosità, per far. Lo fa perché gli piace, evidentemente gli piace un po' di esibizionismo, gli piace farsi vedere mentre fa sesso. Sì, cioè. ma un esibizionismo sano, però non so se. Sano, quello poi. Sì, per carità. Non sono una che si mette lì per forza. Ma che le piacerebbe diventare una pornostar, cioè una persona che lavora solamente facendo i film? Ma può anche essere. Ma no, come può anche essere, sì o no? Non ci penso, non è è più un hobby, non, mi pare. Non siamo in un momento molto roseo, sai? Quindi quello no. Esatto, quindi io sono una donna con i piedi per terra. Quello che viene. Pure. Poi posso anche, tra virgolette, diventare più famoso. Ci sta, mi fa piacere, però io rimango sempre morena. Avrò sempre i miei amici, rimarrò sempre me stessa e va bene così. Vabbè, non mi monto la testa. No, vabbè, per carità. Ma no. Qualche suo collega per queste sue cose che dice, cioè di giorno guida il taxi, la sera o comunque poi gira, si incazza o no? Qualche suo collega d'assisto? Oppure le ha chiesto qualche prestazione, qualche suo collega? Sì. No, assolutamente. No, eh. Tanto che mica ce lo viene a dire. Sì, ma a parte. Posso avere un taxi personalizzato? Io, Parenzo, il taxi personalizzato della Zanzara con la signora Morena 69. Ti viene a prendere sempre con scritto sopra la Zanzara. Taxi con. Perché no? Straordinario sarebbe. Scusi, perché è servizio pubblico. Taxi 69, taxi personalizzato. Cioè, ogni volta che chiamo un taxi, chiamo la signora Morena. Il taxi della Zanzara. Beh, sarebbe eccezionale. Vabbè, comunque, lei è vero che lascia il numero di telefono? Nei film? Nei film lascio il numero di telefono, sì. E perché? Sì, sì, sì. Ma è un vero perché numero di telefono? Perché c'è gente che ha voglia di incontrarmi. Cioè lei si vuol far pagare per fare sesso, diciamo la verità. Se qualcuno le desse dei soldi per fare sesso, lei ci starebbe o no? Sì. Certo, ci mancherebbe. Cioè lei vuole non fare... Non lo faccio mica gratis. Ah, ok, beh, dunque lei oltre ai film eccetera, certo, può fare anche la prostituta. Certo, assolutamente, sono orgogliosa. No, ma non è tutto così scontato, però cioè, va benissimo. Non ho capito, cioè lei oltre a fare la tassista, a girare film porno, vuole anche, vorrebbe anche, magari lo fa già, fare la prostituta. A tempo perso, certo. Ah, a tempo perso fa no. La prostituta, ma perché certo. No? Infatti va benissimo, per carità, cioè lei ha tre mestieri insieme, fa tre mestieri insieme, ricordiamolo, questa signora. Signori miei, la crisi non esiste la crisi. È sempre quello. Questa qua fa la tassista per la compagnia, dice 6969. Chiamiamo 6969 al centralino un attimo, vediamo un po'. 6969, sì, adesso mo chiamiamo. Non c'è, non lavora. Mo chiamiamo 02, se fatemi 026969. E poi, vabbè, poi dopodiché fa la pornostar e poi dopodiché fa anche prova a fare la pornostar, poi fa anche la prostituta, detta anche in termini volgari mignotta, in termini buoni, signora. Ragazzi. Allora va benissimo. No, non sto dicendo nulla. Quanto sono le prestazioni? Quanto vuole a serata lei? È un lavoro. Punto. Sì, ma certo, sono d'accordo lavoro. Con lei. Ma infatti adesso è una cosa, lei combatte la crisi alla grande. Quanto vuole per una serata, un paio d'ore? No, non è il caso. Un attimo, come non è il caso? Dal numero di telefono nei film non ce lo può da noi. Siete collegati? Aspetta, Morena, aspetta. Buonasera, sono Daniela. Sì, salve, sono Daniela, 6969, eh? Sì. Volevamo capire, esiste la tassista Morena, quella che fa anche la porno star, no? I film porno? Guardi, sono informazioni che noi della sala radio non abbiamo, per cui se vuole avere delucidazioni. No, ma volevamo sapere se esiste questa cosa, capito? Cioè, perché siamo un po' curiosi. Cortesemente, un attimo. Sì, si informa la clientela che è possibile effettuare prenotazioni taxi per qualsiasi data e orario. Questo lo sapevamo. Si informa la clientela. 026969. Pronto? Sì, salve, buonasera. Sì, buonasera. Volevamo capire se Riccardo, il responsabile del turno, mi dica. Oh, salve. Volevamo capire, esiste da voi una persona che sia Morena che fa anche la pornostar, eccetera, che dice di fare la pornostar e che lavora per il 6969? Le ha già risposto la mia collega, purtroppo noi non sappiamo. No, ma esiste, nulla. Esiste davvero, cioè fisicamente, questa non voglio avere collegamenti, cioè voglio capire se esiste questa cosa qua, cioè se lavora per voi, per il 6969. Guardi, le ripeto, non è il mistero di aiutarla. Fati, ma lei lo dice, lei che lavora per il 6969, non è che sto chiedendo il mistero, la risoluzione del mistero di Fati, ma esiste questa persona o no fisicamente? Solo un sì o un no, magari lei mi dice no. Guardi, no. Io non la conosco, però la conosce? Lei è responsabile dei tour e non conosce una che lavora, che dice di lavorare con voi? Abbiamo più di 1000 tassisti, quindi non conosciamo i nomi. Vabbè. dei tassisti. Però se avesse bisogno di informazioni magari più precise, potete chiamare domani e parlate con la direzione, loro sicuramente. Beh, quello lo sanno. Sapranno. Beh, però me lo dica un po' in confidenza, esiste o no? Questo? La confidenza, no, tanto non lo so. Siamo solo gli all'epoca. Davvero? Sì, sì, immagino. Ma esiste o no? Esiste o no? Esiste, amico mio, sì o no? Vabbè. Guardi, mi spiace. Io personalmente non la conosco, mi spiace. Ah, per lei personalmente, però esiste, lavora per voi, vabbè. Un abbraccio, amico mio. Ho detto questo. Salve, buona serata. Ciao. Salve. Morena, ti abbraccio. Sei la numero uno, eh. Cioè, risolvi la crisi economica in questo modo. Risolvi la crisi. Risolvi la crisi economica. Ancora non ho capito là che perché non vogliono dire. Cioè, c'è nei confronti di queste cose. Ma una non c'è niente da dire. Ascoltate, ragazzi, il mio lavoro è il mio lavoro. Cioè, se vogliamo parlare del sesso. Ho capito. Mi fa piacere, ma noi parliamo però del sesso. Come non vogliamo parlare del sesso? Però ci hai detto comunque, anche che fai. Ci hai detto anche che fai il mestiere più antico del mondo. Ma lì che ne sanno? Giustamente lei dice lì si occupano, si arriva in tempo al taxi, non di che cosa fa poi la signora. Le sue vabbè, che c'entra? Vabbè, ragazzi, ma non ti mica, mica ti vogliamo licenziare, ti vogliamo far licenziare, per ma carità. Ma figurati, ci mancherebbe altro, però non è il caso. No, ma ti difendiamo. Non lo diranno mai, c'è la privacy, ragazzi, dai. No, certo, è normale. Vabbè. Sì, vabbè, comunque, quanto guadagni a fare la prostituta? Ma non guadagno. Non manco a fare la prostituta guadagno, non ho capito. Quanti clienti hai? Ma quello che capita, io non sono una persona che fa lavoro a cottimo, io ho un lavoro, una vita privata, una casa a portare avanti. Ma sei, non ho capito, sei quando succede, se succede, sei sposata? Delle persone, sei sposata? Ho un compagno. E che dice questo tuo compagno? Lui è felice per me, lui mi stima tantissimo. Vabbè, quello lui è una persona, certo. Lui è una persona che per come sono io è strafelice di avermi incontrata e di essere, cioè, mio compagno. Cioè, è felice che fai la prostituta, è felice che fai la pornostar. Perché faccio tutto quello che mi fa stare bene, capisci? Perché sono una persona così vera. Vabbè, il mondo è vario, è bello perché è vario. Sì. Che dopo? Che dobbiamo fare? L'importante è che c'è rispetto, che una persona sa quello che vuole, quello ma che il fatto che vai con gli altri non gliene frega niente, no? Non è che non gliene frega niente, perché il sesso è diverso dall'amore. E se tu lo prendi come lavoro, lo è sempre una cosa che si divide, no? Dividi. Vabbè, il sesso, ci devi mettere pure passione nel lavoro, non è che è solamente così, altrimenti. Ma è sempre sesso, però rimane. Tu, cioè, io non è che mi posso innamorare delle persone che incontro, magari succede il contrario, questo sì, questo succede. Non c'è dubbio. Vabbè, ti abbraccio, ciao, presto, ciao. Ciao. Ciao, cara. C'era coso in collegamento, dovevamo collegarci con Barnard, il punto pure sul coso, il punto su Renzi. Mi sono scordato, Barnard domani mi sa, Barnard ci sei? Non c'è. Donato Varese, Donato. Salve. Ciao Donato. Dimmi. Volevo dire una cosa, volevo fare una difesa per Radio Padania. Sì, perché? Che è successo? Che hanno fatto? No, non c'è niente né da difendere né da attaccare. No, invece da difendere, perché Radio Padania è una radio italiana, no? Gestita da italiani. Sì, loro non si considerano molti italiani, comunque da Padani. No, che da millenni portano con sé una cultura millenaria, no? Perché noi italiani siamo una cultura millenaria. Nel cuore della Lombardia esiste una radio italiana che tutti quanti noi, al di là dell'ideologia, dovremmo difendere. Ma perché dovremmo difendere? Non ho capito. Dovremmo difendere perché parla a favore dei nostri interessi. Ma chi l'ha detto? Ma che stai dicendo? Ma sei impazzito? Parla a favore dei nostri interessi. Vabbè, senti, amico mio, ci dobbiamo salutare. A domani, 18:30, ciao. Se tu fossi condannato per diffamazione nei confronti di una persona alla quale hai detto stronzo, scusami, tu gli dici stronzo? Non glielo dici, gli dirai testa di cazzo, ma non gli dirai più stronzo. O sbaglio? Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ciao, mi fate ridere, siete troppo simpatici. Radio 24, la passione si sente.